Arriverà qualcun altro. Marta arriva. No, Marta non può perché c'è la riunione. Noi abbiamo rinunciato giustamente alla riunione. Vi abbiamo salvato. Alla riunione? E del comitato promotore, del comitato organizzativo delle primarie. Qui ci sono più comitati che gente. In effetti è il comitato organizzativo che dovrebbe lavorare. Il comitato promotore, che sono le quattro persone che avevano sottoscritto, sì, ma non partecipano sempre, no? Dico a quello. Però in effetti poi dopo ci sono tutta una serie. Niente, io direi di iniziare questa sera perché ci sono parecchie cose da discutere, no? Certo, bisogna prendere atto comunque realisticamente che la presenza nostra è calata drasticamente. I motivi possono essere tanti, però d'altra parte invece ci sono anche un discorso politico dietro che dobbiamo fare, che dovremmo fare e che lo faremo forse anche nel proseguo delle. Io non voglio iniziare subito su quello, altrimenti ci disperdiamo. Perché come gruppo Primarie Vere per Como, fino a quando ci chiameremo ancora con questo nome, no, diciamo, abbiamo preso anche degli impegni e volevo relazionare brevemente, sinteticamente, poi Marco, anche lui che ha seguito, e questo percorso che c'è stato in questo periodo, no? Nel senso che parto dalle ultime cose, l'altro ieri c'è stata la presentazione nella conferenza stampa che comunque io avevo mandato a tutti, no? Chi voleva intervenire di essere presente nella sala STEM di Como, dei quattro candidati, no? Che sono stati ufficializzati e di fatto si è anche aperto, questa è la Marta, un attimo solo. Pronto? Dimmi Marta, ciao. In diretta, te avevo detto, adesso una è qui davanti a me, che lo dai da Paola Sozzani, e l'altro porta Marco. Esatto. Va bene, dirà qualcosa sul bunga boom. Tu non sai, ma noi parliamo di te anche quando. Spero di no. Allora, c'è stata la conferenza stampa dove c'è stata la presentazione. Avrete visto sui giornali, poi hanno fatto una cosa ridotta sulla provincia, mentre dall'altra parte c'era solo una mezza pagina sul Corrierino, però è sempre commisurato alla lettura dei due giornali, no? Corrierino meno letto, sempre grandi pagine, no? La provincia. Chi è stato poi dalle sue impressioni alla conferenza stampa? Si sono presentati in un modo piuttosto soft, no? Nel senso di dire. Che sono state da alcuni interventi, tra cui il mio, poi io non pensavo neanche di dover parlare, no? Dico così. E poi invece ci ha fatto la domanda, mi ha fatto la domanda e spero di aver risposto bene, però dovrebbero dire gli altri, il Bruno Saladino diretto a me, proprio dico perché ci siamo chiamati Primarie Vere per Como, puntando molto sul fatto del vere, no? E io ho dato una risposta che credo che sia quella corretta, che era quella di dire che volevamo delle primarie che non fossero qualcosa di governato dai partiti unicamente, no? Ma qualcosa che venisse dal basso, no? e al quale noi abbiamo anche partecipato a questo con una nostra proposta, con una serie di incontri, con un'apertura del dibattito alla città e tutto quanto. Nel frattempo ci sono stati per organizzare le primarie, ci siamo incontrati, anzi ci si incontra tutti i giovedì, no? E fino adesso ci si è sempre incontrati, perché ci sono alcuni aspetti di tipo organizzativo. Innanzitutto l'organizzazione della pubblicizzazione delle primarie tramite volantini e manifesti, no? Il volantino, chi lo vuole vedere, che è stato fatto, no? È questo, no? È qui. E il manifesto è fatto sulla passariga di questo, no? Che verrà poi pubblicizzato da tutti, no? Poi le iniziative che erano previste già quando sono state fatte le primarie, le iniziative comuni di tutti e quattro i candidati che si dovrebbero presentare. Anche lì noi avevamo già, forse l'abbiamo già detto sul discorso, che l'avevamo già fatto, no? Sì, avevamo tirare le fila. Esatto, dopo il limite parla meglio lui, no? Di quello. Comunque abbiamo individuato rispetto alle cinque più ipotesi e fatte in un certo modo, tre incontri organizzati da il comitato di fatto. Uno, che è quello organizzato dell'ARCI, che dopo ve lo dico, no, ve lo illustro, perché ho parlato con Giampaolo, che non può venire stasera e l'altra sera anche all'interno del direttivo dell'ARCI, io sono anche nel direttivo dell'ARCI, no, anche se non mi sono mai presentato espressamente come membro dell'ARCI, perché va bene, altrimenti dovrei tirar fuori 10 o 12 associazioni, no? Però l'abbiamo discusso di questa iniziativa che aveva pensato e l'ARCI voleva promuovere, perché è una cosa che si vorrebbe fare molto coinvolgente. Sugli altri tre incontri vorrei che dicessi due parole. Sì, no, faccio svelto perché so che neanche tutti poi siete così interessati a questa questione degli incontri di dibattito per i candidati. Io credo invece che un pochino di interesse dovremmo tenerlo su questa cosa qui, perché una parte che possiamo fare come primarie vere, noi siamo il quinto elemento della coalizione, no? Gli altri elementi sono partiti. Noi possiamo fare una parte, diciamo così, propositiva, completamente esterna. La parte propositiva che possiamo fare di incidenza organizzativa su questi incontri di dibattito è relativa, però può essere nella struttura del dibattito, e quindi l'abbiamo impostata l'ultima volta. Prima c'era un'impostazione più rigida che diceva potevamo proporre noi un esperto che apriva il dibattito, poi si lasciava i candidati il loro spazio e poi sarebbe stato il dibattito con il pubblico. Abbiamo svincolato questa prima ipotesi perché si è inserita ARCI con il giorno 15, con un'iniziativa propria che teoricamente è generalistica e non è più su un tema specifico, e che quindi noi spingeremo, non so se questa cosa qui poi è stata recepita, a occuparsi principalmente di cultura e partecipazione come temi principali. E sarebbe opportuno, perché così non va a intersecare con gli altri temi che possiamo proporre, ed è una serata che l'ARCI organizza in maniera autonoma, che potrebbe anche essere più estesa di un semplice dibattito. Sì, questo vale sapere come va a parlare. Poi restano quindi tre dibattiti tematici. Uno sui temi ambientali, il secondo sui temi urbanistici e sul futuro della città, un terzo sul tema, diciamo, del sociale in generale. Questi dibattiti avrebbero già una data, il 4 il dibattito sull'ambiente, il 9 il dibattito sull'urbanistica. 8. Anch'io dicevo 9, invece no, non è che potete dire 8 o 9. No, a me 9 perché c'è stato. Ma anch'io avevo sempre 9. Detto 9, invece 9 dopo mi hanno corretto nell'8. No, nessuno ti può correggere nell'8. So. Perché l'esperto che è stato invitato, poi il 9 io ho comunicato al comitato che il 9 è il giorno di benedetto dibattito e quindi non si può spostare. Ah, va bene. Beh, io ho sempre detto 9, dopo oggi mi hanno corretto. No, ho confermato questa cosa qui perché sennò si va a casinare. Sì, secondo me questa cosa qui va confermata. Il 15 si inserisce ARCI con la sua iniziativa, quindi su una cadenza sostanzialmente settimanale, e la settimana dopo ci sarebbe l'ultimo sul sociale. Il 22. Il primo dibattito sull'ambiente è stato proposto così: un esperto che venga indicato da noi, diciamo, cioè dai gruppi che stanno lavorando attualmente sui temi ambientali, fa un'introduzione, poi si passa direttamente al dibattito. Questa cosa è stata portata su proposta che viene dal gruppo vostro che sta lavorando sull'ambiente. Adesso c'è stata un po' di discussione sulla questione che fosse uno più di uno chi presenta, su questo poi adesso possiamo andare più nel dettaglio della questione, ma diciamo che l'ipotesi di questa struttura del primo incontro è passata l'altra volta e la confermerei se qualcuno non ha idee differenti su questa cosa. Sul tema urbanistico, che sappiamo è anche piuttosto complesso da affrontare, no? E che potrebbe anche facilmente, secondo me, scivolare in discorsi troppo di dettaglio. Allora, lì la struttura che è stata proposta è quella iniziale, cioè un esperto fa un'introduzione generica sul tema, i candidati su questa impostazione dicono la loro, poi si apre il dibattito, ma comunque non è che sia una struttura così differente da quell'altra. Quella dell'ARCI è in mano all'ARCI, quella del sociale, secondo me, è ancora in una fase da organizzarsi. A ciascuno di questi incontri ci sarà un moderatore o più di un moderatore che è un giornalista. Per la serata dell'ARCI ce ne sono due che sono Giampaolo Rosso e Alessio Brunialdi, no? E lì, perché la serata dell'ACI, loro, l'ACI lo vuole fare un po' a tutto campo, dopo ci sarà, ma con un forte coinvolgimento, anche con proiettando delle immagini, con un qualcosa che incalzi abbastanza, anche mi diceva stasera il Giampaolo, i candidati, con quindi domande brevi, no? Con domande e risposte molto brevi si vorrebbe fare, che le possono fare loro, che si possono raccogliere, loro aspettano da noi un forte contributo in questo termine, no? Cioè, ho parlato quasi un fuoco di fila di domande, dove non uno poi fa una domanda che tutti e quattro devono rispondere, no? Ma solo ecco, no, individuando la persona e fare domanda diretta al candidato, no? Dopo, se capita che eventualmente un altro candidato vuole anche intervenire, può anche intervenire, no? Ma con domande dirette ai singoli candidati. Bisogna mantenere l'equilibrio su, esatto, questa cosa, perché già qualcuno ha fatto notare dei candidati che teme, no, che la par condicio sarà. Va bene, no, ma questo adesso io già ho messo a te parlare di par condicio, non sto bene. No, che è giusto, nel senso che tutti devono parlare, devono poter parlare, poter esprimere e dire così, ma se dobbiamo stare lì a fare il conto dei minuti, non è questo l'ambiente, cioè dico sicuramente. No, sono i danni di questo sistema elettorale. Ma sì, è evidente, no? Dico, ma non è soltanto quello, guarda, è come la burocrazia che è entrata nella nostra mente, no? Dico, e per tirarla fuori ci vorranno almeno due o tre generazioni, c'è gente da fare. Posso dire una cosa? Sì. Danilo sa che allora io sono qui a titolo assolutamente personale e non rappresento proprio l'associazione in cui sono, che è la Città Possibile, e tra l'altro stasera c'è anche Marco di Città Possibile e Danilo che non sa. Ma noi, in un nostro giro di cose, io ho proposto che noi fossimo, che noi come associazione, che noi come associazione fossimo tra i proponenti. Noi l'intenzione che poi tutto il consiglio aveva comunque accettato, che noi fossimo tra i proponenti di una serata a tema sull'ambiente e sulle questioni della vivibilità della città, e invece a quanto pare questa cosa non è passata, non so come si può fare. Sì, però dopo avevamo detto, io l'ho portata. Ecco, perché questo vorrei dire, quello che non capisco, allora vorrei capire come avviene la comunicazione all'interno di tutto questo lavoro del primario. Perché comunque io lo seguo, credo, di striscio, ma poi non sono sempre come così me lo sembro. Però ad esempio non sapevo che ci fosse. Mentre ho avuto chiaro che c'era un gruppo cultura, perché ho ricevuto da Condituri la cosa così, io non sapevo fosse avviato, ci fosse un gruppo ambiente ad esempio, no? Quindi mi chiedo come mai poi queste informazioni come passino e come non passino, perché non ne ho avuto notizia. Mi spiace vedere che invece non c'è, la nostra proposta non è passata, e va bon. Però noto anche questo, nelle tre temi che sono stati proposti, l'avevo detto anche questo a Danilo, secondo me sarebbe stato interessante farli ambiente bene, ma anziché sociale ottimo, ma anziché urbanistica, che in qualche modo può essere ricompreso nella parte dell'urbanistica dell'ambiente, l'avrei fatto sui temi economici del comune, perché come ben sapete lo sviluppo sostenibile è dato dai tre elementi, si dice anche fare trecce con la parte sociale, la parte economica e la parte ambientale. Quindi, a mio avviso, considerato poi che Lucini ha fatto la serata, che poi era sul PGT, quindi era anche sull'urbanistica l'altra volta, e l'urbanistica mi sembra che davvero alcune cose sono emerse quella sera, ma è molto tecnica anche come cosa, e quindi forse era fare l'ambiente pure urbanistica, a mio avviso, ma lo dico per quello che vale, forse sulla parte economica, perché a me interessa anche molto come funziona economicamente la macchina comunale, e quindi avrei preferito questo. Mi chiedo invece come avvengano e come vengano prese decisioni e come passino le informazioni, perché è un percorso che non mi sembra, adesso dico, non per fare non vorrei dare un eccessivo peso alla parola, però mi sembra poco partecipato, ecco, e un po' opaco, ecco, non dico non trasparente, ma opaco e poco partecipato. Vorrei dire una roba io sull'informazione, ma lascio a te la questione sul sulle serate, sul perché non si è riuscito a fare quella che era innovativa. C'era Terzi che si era anche offerto di fare una cosa con un esperto molto particolare. L'ho già proposta anche quella, l'avevo portata anche quella. E non è passata. Ah no, non è che non è passata, quella secondo, dopo un ragionamento, è stata pensata, no, anche all'interno. Poi dopo non ha, purtroppo io due giorni che ci rincontriamo io e l'Alberto, no, perché volevo anche spiegarglielo, che probabilmente questo tipo di incontro potrà andare bene dopo, piuttosto che adesso, no, capito? Quando ci sarà già il vincitore. Esatto, perché comunque, come me l'ha impostato lui, che è un qualcosa che mette assieme, secondo me è una cosa che potrebbe essere molto interessante, soprattutto nella fase di formazione anche dei programmi, no? Perché anche lì ci sarà un bel dibattito, sulle cose, almeno noi lo vogliamo mantenere, lo vogliamo portare avanti, no? E poi dopo il problema vero era che c'erano più iniziative, perché anche quello sulla partecipazione, sull'amministrazione, eccetera, è stato tagliato completamente l'ultima volta, perché non volevano fare tutte queste riunioni, no? E queste ritenevano troppe, anzi, i candidati a alcuni questi incontri. Devo rispondere perché è una persona che ti ho telefonato prima. Scusa, Beh, mi collego a quello che stava dicendo adesso lui. Non dobbiamo confondere, questi qua sono quattro dibattiti organizzati a livello di coalizione e sono dibattiti concatenati. Non sono esattamente il momento, lo dico soprattutto perché c'è stata un po' di polemica su questa cosa che col gruppo ambiente, non sono esattamente il momento in cui uno va a tirare fuori le tematiche programmate. Sono queste che devono scivolare, secondo me, ma questa ovviamente è una visione che hanno anche nel comitato organizzatore di là. Devono scivolare dalla parte in cui i programmi si formeranno davvero, c'è lungo tempo, per cui si diventi noi anche più positivi su questa cosa. Sulla questione dell'informazione, come girano le formazioni? Girano malissimo, come si può vedere, ma non è che girino malissimo perché c'è l'opacità, girano malissimo perché le informazioni siamo noi che le dobbiamo far girare. E siccome siamo scoordinati in una maniera veramente impressionante, semplicemente non girano. Un gruppo lavora, un altro gruppo lavora, ci si scambia le cose nell'indirizzario che più o meno ci abbiamo ognuno nel proprio computer, non c'è un'organizzazione messa in piedi, su questo dovremmo fare qualcosa se vogliamo stare in piedi da qua alle elezioni, perché qui prima eravamo in 80, poi in 60, adesso siamo venuti così. Quindi una buona mossa secondo me fondamentale, perché tutto ricomincia a girare meglio, è rendere fissa una data, rendere fisso un luogo e finalmente, cosa che non abbiamo mai fatto, comunicare che questa benedetta roba esiste, comunicare fuori da qua che è aperta, che c'è la necessità di avere più gente a partecipare sui singoli gruppi tematici. Questa è una cosa di cui parleremo più tardi, perché chi si è anche messo giù una proposta di piccolo manifesto per rendere questa cosa qua visibile anche esternamente da qua. Come girano le formazioni, dobbiamo metterci noi a farle girare. Cioè non c'è nessun altro qui sostanzialmente, né che sta facendo filtro, né che stia dando neanche una mano. Semplicemente la situazione è quella che potete vedere. Poi c'è il fatto che avete visto che su Facebook c'è sia il gruppo detto Primarie per Como, che non è più Primarie Vere, ma è Primarie per Como, il gruppo si chiama così, e adesso c'è Primarie a Como. Oh, questo non è scusa. Che ci sia il gruppo Primarie Como istituzionale, ufficiale, con il giallo, con l'azzurrino, con la roba lì, ufficiale, che si chiama Primarie Como. Quindi ci sono due gruppi. Sì, però uno ha un'adesione di 12 persone. Sì, beh, io perché appena fatta Primarie Vere ne ha 138. No? Che cos'è Primarie? È quello sarà quello ufficiale della. Quindi, che non lo invade a Righi, non verrà seguito dagli altri. Adesso non sta tanto sulla sedia. Allora, volevo capire se quello assorbirà questo. No. Era una battuta. Sono due cose diverse. Ecco, però è chiaro che va anche bene che ci sia un luogo ufficiale, chiamiamolo, perché con tutto il rispetto per ognuno di noi, però magari lì forse non ci saranno dei commenti come ci sono stati qua, che forse non hanno fatto onore a nessuno di noi. Ma magari non c'è neanche un gran dibattito, bisogna capire se quello lì poi è il problema era che anche prima, no, c'è stato un periodo dove anche il blog veniva seguito, no, capito? E anche un pochettino adesso purtroppo non è più seguito. E quindi infatti era uno dei punti che volevo discutere stasera, ce ne sono tanti, dopo li mettiamo giù. È in ostaggio, quel gruppo lì è in ostaggio. Esatto, è quello che bisogna pensarci anche come muoverci, cosa fare e cosa dire, perché effettivamente è un dato, no? Non possiamo anche dire, vabbè, ognuno scrive quello che vuole, lo manteniamo, e poi però bisognerebbe mettere su invece degli altri interventi un po' più qualificati, no? Dicendo bene che vabbè, se uno se vuole scrivere noi non è che possiamo tagliare o non vogliamo farlo, e quindi chi legge, chi lo segue. Certo che il problema è che se però uno viene e mette su 10 o 15 interventi, va via, che la gente se ne va via. Cioè, stiamo solo dicendo che ci vuole un moderatore. Esatto, bravo. Era questo. E questo volevo dire. Ecco, sulla comunicazione lei ha ragione, in questo momento di fase c'è stato un po' di problemi. Ecco, c'è stato un po' di problemi, capito? Effettivamente, perché io ho portato anche da parte mia, no? Perché ho portato all'interno del. Infatti, noi abbiamo detto comunque che all'interno dell'iniziativa, quella sull'urbanistica, avremmo, o sull'ambiente, no? Abbiamo dovuto mettere assieme Città Possibile. E, sì, sì, era venuto fuori. Dopo io non l'ho fatto girare in Città Possibile, ecco, per esempio. Diciamo le cose come sono, ecco, diciamo così. Ma anche perché pensavo di vederci o di sentirci, invece proprio ben da freddamente, ecco, diciamo così. Comunque loro sono qui, che oltretutto adesso abbiamo anche l'occasione, avete anche l'occasione dopo di parlare, di sentirvi, no? E perché ci sono, possono essere cose anche interessanti, no? Anche a loro non li voglio. Cioè lo stesso discorso. Ecco, invece era questo, no? Allora, le iniziative, facciamo un escluso generale di tutto, no? Poi ci sono due problemi praticissimi, no? Che io però stasera e dopo anche dobbiamo tirarli fuori, eh? Anzi, uno è quello che noi dobbiamo versare dei soldi, no? Sì. Dobbiamo versare dei soldi. Esatto. Quindi stasera chi non ha ancora versato prima, no? È invitato a farlo, no? Dico, dopo metti i soldi lì, non è che. Perché noi dobbiamo versare 375 euro, 180, 190, no? Roba del genere. Siamo a metà. Siamo a metà. Ecco, chi lo vuole fa. Chi non la fa, chi l'ha già fatto prima, se vuole, non è esentato da farlo ancora, no? Così. Perché dobbiamo chiudere, altrimenti dobbiamo pensarci. Io guardo in faccia 5-6 persone, mi porta l'anno, dico. E quello che ho fatto. Il secondo invece altro problema, perché è un problema, è la gestione della giornata del 27 di novembre. Abbiamo bisogno di sfruttatori. E siccome ci vogliono circa 80-100 persone, noi ne abbiamo dovuto promettere 20. Io stasera non esco di qui, se non ho i nomi. Cioè qui non esce nessuno senza avermi dato il nome. Certo, noi che siamo qui dobbiamo dare il nome. Qui nessuno, ciao, buonasera. Qui nessuno esce senza che mi abbia dato il nome volontariamente, no? Volontariamente. Ti ricordi che noi abbiamo fatto gli scrutatori? Eh sì che abbiamo fatto gli scrutatori, sono più divertiti, Avete esperienza. Abbiamo esperienza, ma noi ci siamo, no ragazzi, qui non c'è da scherzare, Stasera dovrò venire fuori 20 nomi, Io prima ero preoccupato. Siamo 20, sì, sì, adesso sono più. E va bene. Voilà. Ciao, ciao. Scusate. Ciao, vai, ciao, vai. Ciao, ciao. Quindi, questa sera, prima di uscire, per favore, non andate via senza avere depositato sul tavolo, no? Soldi. Ecco, noi non è che chiediamo quello chi ha già versato. Ma noi li conosciamo. Non possiamo lasciare una lettera di intenti. No. E secondo, gli scrutatori. Non dimentichiamo. Gli scrutatori devono essere residenti, però. Chi? Giusto. Gli scrutatori? No, no. Anche non residenti. No. Anche non residenti. Sicuro, no? Sicurissimo. Sicurissimo. No, anche non residenti. Sono tutti domiciliati presso di me. Quindi tutti. Ecco, questi sono i punti, no? Quelli pratici che vi ho detto. Gli incontri, ne abbiamo già parlato. Poi ci sono alcuni aspetti, come quello del sito. Il sito, la comunicazione va gestito e va affrontato, no? Sicuramente, perché era stato anche un punto di forza anche come dibattito, ma anche per il futuro, anche perché poi se verrà chiamato con un altro nome, adesso le primarie, allora non voglio ritornare ancora al vecchio discorso, no? Ma un risultato fortemente positivo di questo nostro, chiamiamolo movimento, c'è stato, no? E deve avere un effetto anche positivo ancora avanti, sia durante le primarie per chiunque poi appoggi un candidato, una posizione, eccetera, o chi non vuole farlo e vuole appoggiare invece, e dopo vorrei che Chissi, no, illustrasse, no, per entrare anche nel merito più anche politico e concreto, no, del nostro percorso, no? Perché come anche io l'ho detto, noi abbiamo appena iniziato a operare su questo tema delle elezioni, della politica, dell'amministrazione, come poi diventeranno delle proposte, no? C'è una candidata che se vuole poi interverrà, no? Dico se lo ritiene opportuno, ma vorremmo che anche partecipassero anche altri candidati, no? Diciamo anche all'interno di questo percorso, no? Perché noi vogliamo assolutamente, no, che il discorso, che l'obiettivo finale è quello di vincere le elezioni a Cuomo. Quindi c'è un obiettivo che va al di là e oltre questo, che vedrà poi tutti coinvolti, perché questo è il grande valore aggiunto, almeno credo, no, che è uscito anche dal nostro movimento e che ha coinvolto anche gli altri sotto certi punti di vista, perché anche parlando, dopo certo ci sono tanti contenuti da portare avanti, sono anche diversi, no? Ci sono anche modalità diverse di voler raggiungere determinati obiettivi, no? E su quello c'è lo spazio per tutti, no? Diciamo. Io dicevo, Chissi, per entrare proprio nel coso, visto che avevi portato, fatto e proposto, direi di... Allora, la cosa era un po' partita dal bisogno, come dire, di non essere sempre un po' autoreferenziali, no? di trovarci sempre fra persone che ci conosciamo da una vita. E però quello che siamo riusciti poi a combinare in questa città non è più di tanto. Allora l'idea era quella di, cioè, di questa cosa delle primarie vere, di usarle una volta tanto come un momento veramente di allargamento, cioè di uscire da un gruppo alla fine ristretto di poche persone che in questa città si sono storicizzate, e di allargarci davvero la città. Cioè, io credo che ci sia a Como un altissimo numero di persone che non ci stanno più dentro per una serie di ragioni, con l'assetto economico e politico di questa città, ma che in qualche modo sono lontane dalla politica, perché ogni volta, perché un po' la politica li respinge, ma anche noi nel momento in cui siamo andati a invitarli, a convocarli, alla fine sono venuti, hanno partecipato una volta, due volte, ma poi se ne sono andati, perché in qualche modo non siamo stati capaci, secondo me, negli anni, né di essere accoglienti davvero, ma nell'accoglienza non è semplicemente l'accoglienza, è quella per cui una persona viene e ha, nel luogo in cui viene, ha una possibilità di esserci, di dire qualcosa, non semplicemente di ascoltare, perché altrimenti uno se ne sta a casa, si guarda la televisione ed è forse allora magari anche più interessante di quello che riusciamo a esprimere noi. Allora il tentativo è quello di passare da una fase che poi è un po' anche nella nostra cultura, no? Di quelli che fanno le cose e che le portano al popolo, però insomma non siamo stati capaci di farlo, di rovesciare un po' questa cosa. Allora forse oggi c'è una serie di ragioni anche, come dire, di un pianeta che si sta muovendo, un'esigenza collettiva, perlomeno di tutto il Mediterraneo, che si sta muovendo in una richiesta di democrazia vera, di partecipazione, in Nord Africa, come dire, l'Europa, gli Stati Uniti, eccetera, eccetera, come dire, un bisogno forte di partecipazione e di democrazia diretta. Allora, forse in questo caso, in questa situazione, la possibilità di rovesciare questa cosa ci viene data. Allora, anche stasera siamo abbastanza, ma comunque siamo meno delle volte precedenti, in qualche modo andiamo ad implodere come sempre succede, si parte in molti, ma man mano poi ci si ritrova in tre. Allora, l'idea è quella di rovesciare questa cosa. Io, un po' perché per professione lavoro su professione, secondo me un meccanismo di immediato è quello di far sapere a più numero, cioè di avere un numero di contatti, quello che avrebbe chiamato numero di contatti più alto possibile, per far sapere a più persone possibile che si sta aprendo, come dire, una ipotesi, una stagione politica diversa, cioè una cosa di richiesta di non semplicemente vieni, ascolta, oppure ti ascolto, tu mi dici delle cose e poi io decido, ma di partecipazione, di democrazia diretta, di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica, alla gestione della città. Per cui le primarie non sono non semplicemente la scelta del candidato, ma questa poi è una posizione mia, però in qualche modo in qualche modo volevo vederla con voi, ma non semplicemente di scelta del candidato, ma che attraverso un processo di partecipazione non solo si scelga oggi il candidato, ma domani si costruisca il programma di questo candidato e dopodomani in qualche modo se il candidato vincesse si diventa, come dire, si gestisce insieme la cosa pubblica. Ah, poi le forme vanno inventate, tutto quello che volete. Allora, il passaggio, detto questo qui come cappello generale, il passaggio tecnico che avevo pensato era da una parte di fare un manifesto, come dire, molto, molto sintetico, adesso vediamo se ce l'ho, comunque che è una, grazie, che è una cosa, non lamentarti, partecipa a una democrazia diretta, e vabbè, potrebbe essere questo più, allora l'idea l'aveva messo Felice Cavallotti, perché col dito puntato Felice Cavallotti è questo fondatore del partito radicale, insomma è uno in cui se andate a vedere la figura in qualche modo ci potremmo in qualche modo identificare. Non quelli di Pannella. No, infatti non quelli di Pannella, stiamo parlando di un massone. No, non è un massone. Come non è un massone? Non è un massone. Allora, vabbè, poi dopo la vediamo, lasciamo perdere. Non è un massone, lasciamo perdere, se è un massone o non è un massone, non è questo. Lui è un estimatore dei massoni. Allora, l'idea è quella di trovare un luogo sempre lo stesso, una giornata, sempre la stessa giornata. Io ho proposto un giovedì, avevamo pensato a un posto anche dove avevamo pensato la vignetta più vicino, nel senso un luogo anche che avesse una forma più di conviviale, di incontro, di chiacchiera, di confronto, di conoscersi, e poi eventualmente se ci fossero più persone o questa sede qui o un'altra sede. Io adesso abbiamo fatto, allora, dopodiché che cosa è stato fatto? Anziché arrivare, come dire, in tre, fare un volantino e stamparlo, abbiamo pensato di farlo girare, ho chiesto a Danilo di farlo girare, proprio perché, anche per trovare un altro modo di lavorare, nel senso che allora un volantino è un'espressione collettiva, all'interno di un'assemblea cerchiamo di trovare velocemente un modo di renderlo una cosa condivisa. E, vabbè, e poi c'è il blog, queste cose qui. Allora, detto questo, io ne ho fatto un po' di copie, adesso non so cosa fare, cosa faccio? Le facciamo girare? Facciamo girare un po' di copie. Aspetta, sono così. E poi. Alla vignetta è d'accordo. Sì, però l'ho sentito, certo che sono d'accordo, basta che beviamo. Beviamo. Perché consumiamo. Due cose. Io ho già versato il cartaceo. Sono pronto a fare lo scrutatore se me lo fate fare in Conconvalle, no? Perché essendo vecchio, no? Non ho voglia di affaticarmi per tanto, no? Ecco, io ho qui l'elenco delle vecchie sezioni elettorali delle primarie dell'altra volta, credo che le muteranno, no? Se ti interessa se lo so. C'erano anche sedi di partito, no? La seconda cosa, anche se voi non leggete l'ordine, tuttavia l'uscita di Emilio Russo ci ha danneggiato non poco, no? Perché dice l'ultima pirlata dalle primarie sinistre, vogliono cancellare Emilio e Maggiorini, perché su Facebook qualcuno ha detto che se vinciamo il comune dobbiamo abrogare Largo Miglio e la via di Maggiorini. Il coglione, no? Non è chi ha proposto, ma è Russo che appunto, ho capito, no? No? Beh, allora io ti potrei dire che potremmo eliminare via Nino Bixio, che è quello di Bronte, no? E via Crispi, che è quello, no? Che peggio di Bronte. E allora dico, se vogliamo abrogare le via Como, sì, e voglio poi che ne abroghiamo, no? Ognuno capito, ci... peraltro non puoi prendere spunto da quella roba lì per fare un articolo sull'ordine e attaccare le primarie. Cioè. Sì. No, dico, guardate che a Como questo problemino qui sollevato da Russo, no? ha sollevato alcune questioni. Ci sono alcuni che sono pro Maggiolini, alcuni che sono pro Miglio, dico, ma non abbiamo deciso di cambiare le vie, no? Non c'è la, se ciucchiamo la damnatio memoria e non si salva nessuno, si dà il peso a una discussione che avviene normalmente su Facebook ed è allucinante. Se voi la leggete, ci si tira dietro. L'altro giorno mi sono incappato anch'io in una discussione involontaria su Israele e la Palestina. Cioè, se loro citassero quello che si scrive sulla Palestina o su Israele, chissà che cazzo succederebbe. Cioè, la scorrettezza è di Russo che prende uno spunto di una polemica interna su quella roba per fare. È scandaloso Russo, secondo me. Scriviamo sulla sua partita. No ragazzi, se quelli che non leggono i giornali non gliene fotte niente, quelli che leggono i giornali invece gliene fotte, perché è un elemento denigratorio, immeritato nei nostri confronti, che non siamo esperti di toponomastica. Abbiamo proposto un criterio democratico, no? Di demos e di kratos, di democrazia. No, quindi se questo Facebook può scrivere quello che vuole, no? A nome nostro, no? Ma non c'è il signor Facebook che ha scritto. E non so chi l'ha scritto. Ci si è basati, qualcuno si è basato su quello che sta avvenendo a Milano, che c'è una proposta di togliere il nome Piazzale Cadorna per mettere un altro nome, perché Cadorna è stato responsabile di una certa. Chi ha letto alcune cose sa benissimo che Cadorna è stato responsabile di una. Una serie di iniziative sul fronte, eccetera, che non sto a sottolineare, ma è nata una discussione su quella roba lì. Quello che io ritengo sbagliato è l'utilizzo che si fa sistematicamente di quella cosa lì. Noi abbiamo un grosso problema di informazione. È paradossale che quel gruppo su Facebook dovrebbe servire per chiarire fra di noi alcune cose relative, ad esempio, all'organizzazione. E si parla di tutto fuorché delle primarie, di quello che vogliamo, non si discute di primarie e di problemi locali, mai. Cioè io non si è andati, se volete posso citarvi tutte le discussioni che ci sono state e che non aveva senso che ci fossero su quel sito. Okay. Ma anche perché poi l'ipotesi di questo lavoro è quello che questa città comunque i suoi cittadini ha una serie di competenze, cioè ognuno di noi fa un lavoro, conosce qualche cosa. Allora forse se noi riusciamo a innescare un meccanismo in cui le persone partecipano a uno spazio in cui possono portare la loro esperienza di cittadini e di persone che hanno delle competenze, e insieme poi incontrano altri cittadini con altre persone che hanno simili competenze, come dire, dello stesso ambito, si possono forse davvero costruire dei comitati dove non è pura astrazione, ma si può entrare nel concreto delle storie di questa città. Il tutto parte da un punto di vista teorico, dal fatto che l'idea è quella di invitare i cittadini a partecipare, perché forse è l'unico spazio oggi in un mondo sempre meno controllabile, sempre più in mano a, anche i governi ormai hanno poco potere. Allora forse ripartire dal locale, allora forse la gente sull'ipotesi di ripartire dal locale può essere disposta a mettersi in gioco e partecipare. Allora l'idea è che un luogo di incontro permetta che i cittadini si incontrino, e da questa cosa può scaturire, come dire, un percorso virtuoso, ma non solo di costruzione di programmi, ma anche riuscire a trovare delle forme della politica diverse in cui le persone in qualche modo si sentano a casa, cioè andare a una riunione deve essere un piacere, deve essere una gioia, deve essere davvero un'espressione dell'essere all'interno di una comunità, non deve essere un rompimento, cioè deve essere una palla. Allora, noi siamo capaci di cambiare il senso del fare politica, il passare dal subirla all'essere attivi, dal subirla a essere protagonisti, dall'essere un dovere pesante al piacere di fare politica, anche perché facendo politica forse si riesce davvero a cambiare le cose. Ecco, è tutto un percorso che in qualche modo dobbiamo in qualche modo azzerarci, no? azzerarci, perché siamo abituati a sapere le cose, a quelli che ne sanno una più degli altri, a quelli che gli altri sono stupidi, e tanto è vero che le cose sono così perché la gente è stupida. Forse non è così, forse non siamo stati capaci davvero di essere, di avere quel tanto di umiltà da capire che più di tanto non siamo, azzerarci e diventare cittadini come gli altri, però riuscire a fare un percorso in cui, come dire, riusciamo a essere, a coagulare i bisogni, le intelligenze, il bisogno di cambiamento, che credo che sia in questo momento, sia dentro in tutti. Cioè, noi siamo una città ma credo che chiunque, anche quello profondamente centro-destra, oggi sente un bisogno profondo di cambiamento. Allora, noi basterebbe un 1% di persone che riuscissimo a coinvolgere un 1% di persone, che saremmo 500-600 persone. Cioè, voglio dire, è solo, credo oggi, è solo una capacità di azzerarci e di ripartire con altri criteri. È un percorso anche nostro di prendere atto che il modo in cui abbiamo fatto politica fino ad oggi non è stato vincente, e i fatti lo dimostrano, e che però è possibile oggi, anzi abbiamo il dovere oggi di trovare delle altre forme. È un percorso difficile, non è un percorso impossibile. Io lo vedo, e ho finito con un manifesto proprio grande, più potesse, questo qui era una bozza, però il proprio immediato, di comprensione immediata, un volantino e un'email da far girare che spiega il manifesto. La mia idea è che uno è in giro, vede questo manifesto, in qualche modo capisce che è un percorso che gli può interessare. A quel punto cerca il volantino, si collega al sito, capisce che può essere una cosa, un terreno in cui lui è benvenuto, in cui si sente a casa, e dopodiché, certo, è una scommessa, può funzionare, non può funzionare. Io credo che è un tentativo che comunque dobbiamo percorrere, perché la cosa di uscire dal gruppo, alla fine ristrettissimo, che siamo, anche se poi ogni tanto si vedono facce nuove, a parte che poi scappano. Io ogni tanto, in tutti questi anni, ho visto, dopo Genova, ho visto decine di ragazzi che venivano e che andavano alle assemblee del dopo Genova, una volta, due volte, tre volte, alla fine di cosa parlavamo? Di che autobus che dovevamo prendere per la manifestazione? Solo cose tecniche, come se, cioè, non c'era una capacità di... Perché è più facile raccontare le cose che interloquire, che costruire dei nuovi modi di far politica. Abbiamo sempre fatto la strada che conoscevamo, perché è normale fare la strada che si conosce. Allora, riuscire invece a fare una strada che è diversa, è difficile, è cosa, però forse non abbiamo neanche alternative. Ho finito. Patrizia. Sì, io mi rilascio. Se qualcuno vuole intervenire, lo dica, così almeno coordiniamo. Io mi rilascio un attimo a quello che tu dicevi, che questa doveva essere appunto uno stimolo alla partecipazione, a che ognuno aveva delle competenze, eccetera, eccetera. Io avevo proposto il tema dell'ambiente nella seconda o terza riunione che avevamo fatto là, nell'altra sala. Avevo lasciato il nome a lui, avevo chiesto a lei se voleva partecipare, avevamo lasciato i nomi a lui, l'abbiamo mandato con la mail alla mail list, tant'è che Maurizio si era aggregato, certo. E anche loro due. Quindi la cosa è stata fatta proprio in una maniera, diciamo, aperta alla lista, quindi se qualcuno non ha ricevuto la mail, io non lo so perché non le mando io, forse è mancato nel mettere la mail list, l'indirizzare, o comunque la mail era arrivata e chiunque era interessato poteva aggregarsi, quindi la cosa è stata fatta così e noi ci siamo trovati. Però ecco, proprio in questa voglia di mettersi in gioco in un modo nuovo, perché noi abbiamo delle competenze, lei ha fatto parte del comitato dell'acqua pubblica, per cui sull'acqua aveva una conoscenza abbastanza ampia. Io sono un fisico sanitario, lavoro in ospedale da 23 anni e sulle questioni ambientali posso dire qualche cosa di più, forse perché lavoro in radioterapia da 23 anni e vedo i risultati finali delle questioni ambientali, che sono sempre sottovalutati da tutti e moltissimo nel centro-sinistra. Quindi posso con competenza parlare di alcune cose. E Maurizio, che è un geologo, può con competenza parlare di questioni sul territorio perché è il suo mestiere. Allora, proprio nella luce di quello che credevamo fosse lo spirito di questo, abbiamo detto: iniziamo a lavorare e proponiamo una presentazione in cui mettiamo i punti dando due dati. Io non so, parlerò dell'aria e posso dire due dati sull'inquinamento come sta andando a Como, cioè dei dati concreti, solo per dare degli spunti di discussione. Lei sull'acqua, lui sul territorio, e mettiamoci, prepariamo la presentazione. Dopo. Prima non si, allora, prima ci viene detto che viene fatta, che iniziano ad esserci queste strutture rigide. Ah no, la serata deve essere fatta con, prima parla un esterno, ma non ho capito perché deve essere un esterno, se noi abbiamo delle competenze, lo spirito era quello di riportare le competenze in gioco, e perché non potevamo essere noi. No, doveva essere un esterno, poi l'esterno parlava un quarto d'ora, 20 minuti, poi un quarto d'ora ogni candidato, e arriviamo a un'ora e mezza, perché un quarto d'ora ogni candidato, un quarto d'ora, 20 minuti un esterno, che poi che venga qui un esterno e parli un quarto d'ora, forse è uno spreco, perché se vogliamo chiamare un esterno, allora poi durante la campagna elettorale chiamiamo uno, ma se uno viene magari vuole dire anche qualche cosa di più che non un quarto d'ora, magari una persona che si intende di certi argomenti. E dopo tutto questo, quindi ogni quarto d'ora ogni candidato era già un'altra ora, quindi un'ora e mezza, cosa credete che l'auditorium sia in grado ancora di chiedere? È piallato, perché uno dopo è stanco, cioè ha già sentito parlare per un'ora e mezza di cose del tutto vaghe e generiche, e no, noi invece volevamo semplicemente presentare 10 minuti a testa, e facciamo la mezz'ora, i nostri tematiche su cui possiamo anche rispondere dei dati che presentiamo, perché diciamo siamo competenti, ognuno per un proprio pezzettino, e poi dopo aprire subito la discussione. Abbiamo fatto questa proposta, è stata accettata di partire con la discussione, se poi la discussione non parte ci mettiamo d'accordo con il moderatore, che chiederà a sua volta ai candidati di esprimere qualcosa su quanto è stato detto. Quindi non è che non si vuole dare lo spazio, però si vuole prima privilegiare, se ci sono delle domande, della partecipazione, poi se non c'è nessuno è chiaro che si... non serve poi a niente, o comunque si può fare in un altro modo. Quindi, allora, e adesso ci si viene imposto che deve essere una sola persona a parlare. Noi faremo una sola persona a parlare, perché non è che vogliamo con questo, cioè incistarsi su queste cose, perché è da stupidi andare a... Però ecco, questa rigidità è un po' contraria a questo spirito dichiarato di voler far partecipare le persone, eccetera. Primo punto. Secondo, in queste riunioni io ho visto... nella carrellata di tutto quanto è successo, le discussioni su cose e tutto quanto, e a volte negli atteggiamenti, in tante forze centrifughe, in tante... tutto quello che è il tipico andazzo del centro-sinistra storico, per me è stato anche una, cioè così, una cosa nel passato, cioè un percorso nel passato, no? Certe cose mi trovo anche bene, forse siamo così noi, non lo so, per forza che poi implodiamo sempre, voglio dire, cioè... Per me l'unico scopo di questa cosa, ed è giusto che vada avanti, è quella di tirare più gente a votare. L'ho detto dall'inizio, le elezioni saranno in primavera. Se ognuno di noi riesce a convincere intorno a 10 persone che non sono andate a votare la volta scorsa e le porta a votare, questo già è importante il risultato. Quindi, probabilmente, secondo me, queste riunioni a tema erano quelle importanti, in cui se noi le facevamo in ogni circoscrizione cercavamo di tirar su la gente, perché su un tema magari uno viene... Magari invece tutte le settimane a parlarsi, alla fine ci ritroviamo in quattro che ci stiamo anche simpatici, però magari non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è tirare su le persone, ma devi dargli un argomento. Cioè, uno, perché dopo che lavora tutta la settimana deve muoversi una sera? Muoversi una sera, si ha un argomento in cui dice: voglio sentire un po' il candidato che cosa pensa, la persona che cosa pensa, magari qualche cosa su un argomento. Un argomento, allora... Queste serate a tema secondo me erano importanti, a mano mi sembra che si stiano riducendo, perché ancora non era già più sicura quella del 4, adesso non so se verrà confermata. Siamo al 27 di ottobre, manca un mese, se si riducono queste che era il contatto di base, ecco, forse si va a perdere l'obiettivo. Comunque l'obiettivo per me, l'ho sempre detto a ogni riunione, è la primavera, non adesso, le primarie sono un passaggio, però l'obiettivo sono le elezioni vere. Dopo noi andremo avanti a cercare di impegnarci, magari fare altre serate, invitando anche degli esterni, giustamente, dei contributi esterni, però a quel punto su un tema più specifico, perché l'ambiente, sono tante cose, su un tema specifico si può invitare l'esterno e farlo venire e fare una cosa più aperta. Attenzione però a non ridurci sempre a parlarci un po' addosso, che forse ce l'abbiamo genetico, io non lo so. Speriamo che non sia così, perché altrimenti non lo so se riusciamo. Io poi tutta questa voglia di cambiamento negli italiani... Dopo, aspetta. Speriamo. Sì. Comaschi. Non la vedo. Non la vedo nelle persone che ci trovano in giro per strada. Magari che non la vedo, ma siamo noi. Facciamo. Io la vedo, ma giusto. Dopo chiedevo, possibilmente volevo chiedere a Salvatore, no? Perché aveva seguito dall'inizio anche il sito così, ecco, di darci anche un suo contributo, no? Cioè, ma glielo obbligo io, ma no, anche per gestire, anche per questo sito, perché il blog, no? Ecco, il pagina di Facebook, no? Perché altrimenti dopo non vorrei che ci dimenticassimo di questo aspetto che secondo me è importante, perché effettivamente adesso io non avevo visto l'articolo, ma così. Comunque adesso facciamo un giro, non, vediamo di non rispondere, se non, lei potrebbe rispondere, no? Dico noi, non rispondere subito, dopo anche noi risponderemo, perché alle cose che detto. No, no, infatti, bravo, bravo, vai, vai. Innanzitutto scusatemi, in ritardo avevo il lavoro, le prove. Vabbè, io parlo a mio nome, comunque anche al nome del gruppo, delle persone credo che hanno partecipato alle riunioni e culture. Io mi chiamo Miriana Ronchetti, sì. E, abbiamo fatto diversi incontri, ci siamo trovati 2 o 3 volte e ogni volta è venuto qualcuno in questo gruppo, diciamo, cultura, al quale secondo me, lo so che il giovedì tutti hanno magari altri luoghi dove andare, però è bello, per esempio è stato bello vedere che è venuta Paola, poi sono venute altre persone. Tu fai parte di questo gruppo, lei va un po' dappertutto. Io vado dappertutto. Lei va dappertutto. Compatibilmente anche col lavoro. Però diciamo, non so dove vi trovate poi normalmente il giovedì. Ah, non sappiamo neanche noi. Vaghiamo. Niente, vaghiamo. La settimana scorsa ci siamo trovati davanti al Politeama, dove abbiamo iniziato un percorso, lui ha preparato un bellissimo excursus sui vari luoghi di Como abbandonati e bidonati, dico io, cioè il Politeama, il Teatro Cressoni, poi siamo andati ai giardinetti, abbiamo visto il nuovo cimitero di Como, che sono i giardini pubblici serali, no? Perché ci sono questi lumini, è veramente una cosa grave. È un cimitero, non è un lungo lago, è terribile. Noi ci siamo fermati, è passato qualcuno, insomma è stato molto bello. Io vedo invece delle persone che hanno voglia di fare delle cose nuove, che hanno voglia, almeno la sento e credo di avvertirla, non è che voglio farla sensitiva, però camminando per le strade sento le persone che hanno voglia di cambiare le cose, anche perché ci parlo, a volte vado ai giardinetti, mi siedo un po' per il mio lavoro teatrale, vicino a chiunque, alle persone che vanno a fare la spesa, gli anziani, i giovani, le persone hanno voglia di fare un sacco di cose, ma non le possono fare, non sanno cosa fare, dove andare, alla base di tutto, e noi eravamo alla ricerca di spazi. Magari siamo stati anche un po' in giro così, però è stata una serata molto bella. Sono uscite delle cose, hai ragione, un po' nostalgiche. Io ho cercato di riflettere, hai ragione. No, quello che ho detto dopo, è vero. Perché siamo sempre in mutamento, giusto? Sì. Okay. Siamo sempre in mutamento e quindi dobbiamo evolverci in continuazione. Per cui, secondo me, è importante proprio parlare, ognuno a modo proprio, per come sa parlare. Perché non tutti sanno parlare in maniera politica, con dei termini appropriati. Io per esempio mi esprimo a mio modo teatralmente, io scrivo commedie, parlo a modo mio e io credo che sia anche importante che le persone, che si esprimano tutti, che tutti dicano qualcosa, così uno si sente interprete di un qualcosa. Per esempio questo giovedì, e oggi già giovedì, non ci siamo qui. Oh, giovedì, cazzo, c'era un'iniziativa. Giovedì prossimo non so, però organizzeremo sicuramente qualcosa, ci penseremo, qualcosa lo faremo senz'altro. Poi un aggancio, a me è venuto in mente di chiedere a un mio amico, ad alcuni amici che lavorano nel teatro, ho chiesto a Matteo Gazzolo, che è figlio di Nando Gazzolo e deve venire da me a novembre per fare degli spettacoli, pubblicità, per fare uno spettacolo poetico, gli ho chiesto se voleva partecipare a una serata e lui è felicissimo perché è scappato dall'Italia, è andato a vivere in Norvegia questo artista, perché non voleva far crescere suo figlio in questo paese, però ora ovviamente Sulla non parla il norvegese, deve tornare qui a lavorare. E lui mi ha detto, a me piacerebbe passare una serata con voi e parlare anche di arte, ma soprattutto di questo problema che c'è, che ha visto all'estero, fare per esempio un paragone, spiegarci come vivono loro la città. Lasciamo perdere che a Oslo è successo quello che è successo, però va bene, non va bene, cioè va bene lo stesso, nel senso che anche qui succede di tutto, no? Non è il caso che arrivino queste grandi bombe, stanno arrivando, no? Giusto? Dobbiamo toccarci. Dobbiamo toccarci. E lui, per esempio, questa serata la vorrebbe, così ha detto, se mi accolgono in questo gruppo sarò molto contento di parlare di questa cosa, cioè la cultura come la faccia, come viene fatta in altri luoghi, e fare un parametro con dare dei consigli dove tutti possono magari chiedere delle cose o dire qualcosa anche a lui. Il periodo sarà, il giorno sarà quello, dovrà essere è un giovedì 24 novembre, perché lui sta 10 giorni, poi ritorna da suo padre a Roma. Sì, non so, è quello. Vediamo che volevo dirvi, che noi comunque, secondo me, la gente ha voglia di cambiare, come no? No, io volevo, sono un po' schematico, però Chisi stasera ci ha fatto una provocazione e ci ha detto alcune cose, bisogna rispondere, certo, anche a lui. E fa parte poi però anche il discorso che è stato fatto da Patrizia e da Miriana della discussione, perché alcuni di noi sono ancora in primarie vere per Como, anche senza aver scelto i candidati. E noi ci siamo chiesti che cosa ci stavamo a fare, qualcuno se l'è chiesto probabilmente, anche di quelli che invece ha scelto il candidato. Essenzialmente per un motivo, per sollecitare alcune discussioni su alcune cose, su alcune problematiche, ma soprattutto perché l'esperienza è stata molto positiva, ha visto fare la partecipazione, cita Chissi, 200 persone, cavolo, prima di questa iniziativa non troviamo modalità e luoghi di socializzazione come questo nella memoria di Como, bisogna andare dietro di 20 anni almeno, se non di più. Quindi credo sia positivo dare continuità a questa cosa e soprattutto dare continuità non tanto e non solo per la questione che ci sono i 4 candidati, ma perché c'è da battere questa destra, e questa destra secondo noi viene battuta su idee nuove che però devono nascere non da noi soltanto, ma da chi cerchiamo di sollecitare a partecipare al nostro percorso. È anche per questo, ad esempio, che noi non pensiamo che sia fondamentale, che siano fondamentali e unici quei 4 incontri. Io non mi rompo la testa sul fatto che quei 4 incontri debbano avere un taglio di un certo tipo, eccetera. Quei 4 incontri saranno all'interno dei patti che abbiamo sottoscritto con i 4 candidati, eccetera, e saranno gestiti, certo, anch'io penso di più a una prospettiva tipo quella che prospettava, che diceva Patrizia, ecco, come per sollecitare anche la partecipazione dell'uditorio. Ma io penso a un'altra cosa, noi ci siamo mossi, siamo partiti come gruppo cultura su iniziative che vanno al di là dei 4 incontri e che vogliono sollecitare la discussione e la partecipazione delle persone direttamente su alcune tematiche, ok? Non siamo appetibili come uno che propone il cambiamento del nome della via, probabilmente per Emilio Russo, però la settimana scorsa abbiamo fatto un'iniziativa, ci siamo portati in giro 20 persone per Como che hanno discusso della città, e hanno discusso della città sotto vari aspetti. Il volantino, e chiudo con questo, il volantino che ha fatto Chissi e che mostra Cavallotti con il dito puntato, ci è venuto lì, perché si è passati davanti a Cavallotti, in via Cavallotti, e non c'erano signorine quella sera, e quindi ci siamo fermati, abbiamo guardato questa cosa e abbiamo detto, cavolo, ma chi era questo? E sono venute fuori alcune sollecitazioni su questo personaggio che è poco conosciuto, e allora è venuto fuori anche lo spirito un po' laico di Como, perché lui era il fondatore del Partito Radicale. E guardate, io mi sono letto ultimamente per un'altra questione, Il Pensiero Lariano, che è il giornale del Partito Radicale, che è rimasto aperto dal 1901 al 1911, ci sono dentro delle cose che noi ci sogniamo, probabilmente ti piacerebbe molto. Ecco, si tratta di riportare a galla un'anima che Como ha, secondo me, secondo noi, e che si è persa col tempo, che è l'anima anche laica, ok? Luca, scusate, sì, volevo salutarvi un secondo, poi purtroppo devo andare perché ho un impegno lavoro io dopo, Miriana, per cui posso stare un po' poco. Sono contento intanto di essere qui e di ritrovarvi. Io ho perso alcuni degli ultimi appuntamenti, ma non ho perso l'intento con cui ho iniziato a impegnarmi politicamente in città, che è iniziato con la prima assemblea di Prima Libera per Como, e quindi ho ricevuto anch'io il manifesto di Chissi e ne condivido proprio lo spirito, il fatto della partecipazione. Per me è una cosa molto importante, anche nuovi modi di far politica, anche per attirare le persone. Ho avuto modo di vedere un po' di dati anche sui votanti delle scorse primarie, la cosa che mi ha impressionato tantissimo, non sapevo, è che praticamente il 50% dei votanti alle primarie, dei non tanti votanti, aveva più di 60 anni, quindi non più di 50 anni o di 40, più di 60 anni. Mi sembra un dato eloquente, un collega mi diceva, come non lo sai, anche le elezioni, io non sono appunto un esperto di queste cose, però mi ci sto avvicinando un po', riavvicinando, e devo dirvi che li trovo dati molto sconcertanti, quindi il fatto della partecipazione è sicuramente primario e fondamentale, quindi benvenga questo tipo di iniziativa. Io l'ho già detto, ho avuto modo di dirlo anche parlando con altre persone, per esempio io giovedì scorso non ho potuto esserci, anche se consideravo molto bella la vostra iniziativa. Personalmente credo che questo discorso sia un discorso anche, deve essere un discorso di medio termine, di lungo termine, anche svincolato da obiettivi elettorali, che siano quelli delle primarie o quelli delle elezioni poi successivamente. Sicuramente è importante poi esserci anche in queste occasioni, però diciamo che c'è anche un po' un problema di agenda, secondo me, quindi è normale, secondo me è successo, che si siano ridotti un po' gli incontri, però voglio dire, non bisogna perdere l'entusiasmo, lo spirito di questa iniziativa, che poi dovrà proseguire, allargarsi anche sempre di più. Ci siamo trovati in 200 persone che hanno frequentato questa assemblea, che le persone aumentino e non vadano a diminuire. Quindi io volevo semplicemente salutarvi e scusarmi perché devo andare via e dirvi che comunque io ci sarò anche per le prossime future iniziative. Lo ascolto tutto. Grazie. Perdonate una domanda. Posso chiedere quanto è il preventivo, il costo di questi manifesti e chi lo paga? Scusate la durezza della domanda. Dipende. Allora, l'idea è di usare degli spazi comunali. Gli spazi comunali, se passiamo attraverso un partito, un'associazione, abbiamo lo sconto del 50%. Il costo di un manifesto 70% dovrebbe essere intorno a un euro l'uno. Per il costo di stampa se ne sta, credo che lo potrei fare, come dire, da un costo industriale di un 500 manifesti, ma sarà un 150 euro, sarà una cosa. Questo perché sfruttiamo la sua situazione, capito? Mica perché sono proprio le spese vive, cioè non c'è. No, però è bene. Sì. Chiaro, cioè, non è che è una cosa che si può generalizzare e dire, voi ragazzi andate tutti dal Chissi che ti faccio le cose, solo che sono io che gli faccio i conti, dopo il mio commercialista. No, dico così, questa è una cosa nostra, dico, che metterà in giro a dirlo. Il mio commercialista. Quindi tutto potrebbe costare 250 euro. Dipende quanto, voglio dire, in base a che tipo di voglia abbiamo, cioè fin dove arriviamo, cioè, possiamo decidere, io poi dimmi di me. Mi sembra che volesse intervenire la Gisella Introzzi. Scusate se sono arrivata tardi, probabilmente a causa di questo ritardo non ho neanche capito bene alcune cose, tipo il discorso che faceva Patrizia, se non sbaglio, prima sull'organizzazione degli incontri, non ho capito a quali incontri fa riferimento, se sono quelli istituzionali, quelli istituzionali. Che io non ho ancora capito come saranno, francamente, cioè i candidati non sono comunque ancora stati informati. Ho chiesto stasera se i candidati sono stati informati, mi è stato detto sì, fatto da Paolo Sinigale. E perché fai il sole Sinigale, ti dici, ma io ho già detto quattro volte di no. No, ufficialmente non ho nemmeno ricevuto nessuno. nessuna informazione su quali sono le date. E quindi, no, perché la preoccupazione sulle date, scusa se ti interrompo, perché mi è stato detto giusto prima, la data per esempio di urbanistica che era stata fissata il 9, mi è stato detto che c'è un problema. È l'8 sicuramente. Infatti io ho detto il 9, ero convinto che fosse il 9. Il 9 per me sarebbe stato un problema perché è un giorno in cui non ci sono sicuramente, ne ho parlato ieri in occasione della conferenza stampa a Panizzolo, che mi dice no, ma guarda che non è il 9, è l'8. Così ha detto, io non so però niente. E queste cose quindi, che mandano in mano. Sì, quindi, vabbè. Però ecco, vi assicuro cioè, che gli interessati, che forse oltretutto avrebbero qualche diritto anche a dire la loro, su come le date, su come si organizzano, proprio zero, cioè proprio a questo momento. Comunque non è questo il problema. E quindi vabbè, se quindi quello che mi porta, cioè vediamo se questa organizzazione, condivido pienamente le considerazioni che sono state fatte e ci aggiungo una cosa che avevo avuto occasione di dire già nell'ultima assemblea di primarie vere per Como a cui ho partecipato in CNA, che appunto secondo me è l'occasione. Probabilmente mettere quattro persone contemporaneamente non è il modo più efficace per approfondire la conoscenza dei singoli candidati. La mia valutazione era che forse può valere la pena un ascolto, cioè fosse anche aperto su varie tematiche, dedicando due ore ad approfondire con ciascuno, si conosce di più, credo, il pensiero e si riesce ad arrivare un attimo più a una conoscenza, a un'interazione. Comunque, secondo me è bello vedere. Cioè era la mia opinione prima, non ha importanza, non ci sono, qualsiasi modo a questo punto si organizzino va bene. Mi sembra però importante tenere appunto in considerazione il fatto che devono essere delle occasioni vere per sentirsi e per parlarsi, cioè l'orologio è opportuno sapere come scorre. Ma a parte questa cosa, no, io ho saputo da Danilo che c'era questa riunione, fra l'altro io non sono più nella mailing, non ho ricevuto, se non me lo... Io no, ma no, la mia è certo che ho. Siamo inefficaci. Questo per esempio... Cazzo, anche i candidati. No, aspetta. Questo a me è tornato indietro due volte, quando ho e ho visto che alla metà delle persone, allora la prima volta mi sono trovato in una finza di signore, l'ho rispedito un'altra volta e ho visto che alcuni l'hanno ricevuto ed altri no, non so per quale motivo. Ci siamo, cioè me l'hai detto perché stavamo parlando di altre questioni, cioè domani non ci sono, c'è l'assemblea, anzi tu ce la fai, ci vengo volentieri. E ci vengo volentieri, ve lo dico anche per un motivo molto semplice, fino alle ultime assemblee che ci sono state sulla mia candidatura era una cosa che su cui stavo riflettendo, non era decisa, per cui non ne ho parlato nell'assemblea. Oggi è la prima volta che c'è un'assemblea dopo che ho deciso di presentare la candidatura, presentata e accettata, mi sembra giusto esserci e non per ragioni elettorali, ma proprio perché per me questo movimento una influenza sulla mia scelta di candidarmi l'ha avuta perlomeno da due punti di vista. Uno che ho già sottolineato precedentemente, non c'è dubbio che questo movimento, che questa iniziativa è l'iniziativa che ha portato Como a decidere per le primarie. Non era tutt'altro che scontato che in assenza di questa spinta forte, esterna, forte e soprattutto vivace, si sarebbe arrivati a questa soluzione. Quindi ne ho già dato atto e lo ribadisco. Secondo, perché è senz'altro vero che all'interno di questo movimento ci sono delle iniziative, delle posizioni, delle persone che dei temi che sono stati sottolineati, portati all'attenzione, che sono vicini alla mia sensibilità e che hanno influito in questo caso da un punto di vista politico, di contenuto, sulla scelta della mia candidatura. Ecco, quindi era semplicemente un desiderio di non so se questa sarà una cosa positiva o non positiva, non so come la valuta ciascuno di noi, però è un rendere conto di un effetto che sicuramente c'è stato. a questo punto riesco, cioè colgo tutte queste riflessioni e elaborazioni su come proseguire il lavoro di questo movimento, che strada dare avendo raggiunto il risultato primario che è quello delle primarie. Non lo so, credo che ecco, in questo momento una, cioè, che ci sia, trovo molto cioè un disegno utopistico nelle proposte anche che ho sentito questa sera, che per me è molto importante, nel senso che qualcuno deve alimentare questa dimensione, e quindi è importante. Probabilmente bisogna tenere conto e che quindi ci siano iniziative che continuino a sfruttare questo bisogno di maggiore partecipazione che ci viene anche dagli avvenimenti che sono fuori, mi sembra importante ed è buona cosa che ci siano delle iniziative in questa direzione. Io personalmente, lo dico subito, riuscirò poco a seguire questo tipo di iniziative perché ci sono 4 settimane in cui il tempo di organizzare, visto che ci sono le primarie, visto che ho scelto di partecipare, vorrei anche raggiungere il risultato, non è una candidatura così, quindi l'impegno forte è sul versante organizzativo di far conoscere, di acquisire consensi sulla, sulla mia posizione. 4 settimane sono veramente pochissime e quindi credo che, cioè non credo, e quindi su quello il mio impegno personale si concentrerà, per cui riuscirò a seguire poco delle iniziative, tipo giovedì scorso, devo dire, era molto bella, anche molto suggestiva. Eravate a Prestino poi. Esatto, sì, esatto. Ma ripeto, poi sì, veramente sì, molto bella l'idea. E quindi, ecco, allora, due cose da questo punto di vista. La mia valutazione è appunto che sia positivo che questo fermento venga tenuto vivo. Probabilmente si tratta anche di fare però una valutazione dei tempi, perché cioè, la scadenza del 27 novembre in questo momento secondo me non solo per i candidati ma anche per questo momento deve essere messo al primo posto e capire che cosa serve per il 27 di novembre, anche immaginando che possa non essere indifferente chi esce come candidato sindaco del centro-sinistra il 27 di novembre. L'altra cosa è che sicuramente questo tipo di riflessione, quindi tenere aperto questa prospettiva, questa modalità, anche se è difficile di coinvolgere gente nuova, di alimentare la speranza e la voglia di contare, è importante, va tenuta appunto aperta anche adesso, diventerà molto importante nella seconda fase che si apre dopo il 27 di novembre. Però attenzione a non cannare il primo, perché se, cioè, dovrebbe essere una soluzione che favorisce poi il secondo tempo. È banale, chiedo scusa, però credo che un ordine di questo genere vada fatto. E dico questo perché appunto il momento, io sono molto d'accordo, Danilo, su queste cose qui abbiamo fatto discussioni a non finire, il problema, lui ci crede proprio, è di una trasparenza e di una generosità incredibile su questo. L'obiettivo delle primarie non è solo fare le primarie ma è quello che viene dopo, e anch'io da questo punto di vista sono convinta, quindi a tal punto la costruzione del programma dovrà essere effettivamente un fatto di democrazia allargato a tutti, e io ci credo talmente tanto che ogni tanto vengo rimproverata per il fatto che dice ma tu devi dire più attentamente che cosa pensi di questo, di questo, di questo, e io faccio anche difficoltà perché dico come la penso, quali sono i miei orientamenti ideali, ci sono, ma se sto a scrivere le cose è in contraddizione col fatto che poi la soluzione o il programma lo costruirò con gli altri. Quindi la fase importante è poi il programma, e allora da questo movimento, da questa organizzazione, tutto il contributo che si riesce a mettere, a fare avviare, perché poi la fase tra il 27 di novembre e il gennaio di preparazione del programma, in modo tale che tra gennaio e primavera si fa la battaglia elettorale sul programma, è fondamentale. Quindi il mio suggerimento, la mia richiesta, suddividete bene i tempi e cerchiamo di centrare un obiettivo per volta. Secondo, appunto, queste riflessioni devono essere senz'altro avviate, sia sul metodo con cui lavorare poi alla casa che costruisce il programma, sia poi alle cose da metterci dentro. E quindi su questo il comunque la mia partecipazione, sia che vinca sia che non vinca, come da leale impegno sottoscritto, cioè in quella fase senz'altro c'è. Vai. No, io, come sapete, anch'io mi sto impegnando per la candidatura di Cisalento, ho fatto una scelta e tante cose per me, che comunque ho un ruolo anche di rappresentanza nella città, di rappresentare comunque l'istituzione, ma anche di ragazzi. Non sentiamo bene, però. Scusa, posso sapere il tuo nome? Per esempio, del Salvatore, che qualcuno ci conosce. Sì, ecco. Lui suggerisce che tu venga qua davanti, così noi non ci vogliamo. Non ci dobbiamo... Non puoi venire. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Non avevo da dire cose così importanti, no, nel senso, come voi sapete, come tanto mi chiamo Salvatore e faccio l'amministratore della Accademia Galli di Como. Siamo agli Anilo e all'inizio devo dire a pochi altri, quando abbiamo pensato al progetto di come ridare un po' forza al progetto del primario, abbiamo dato vita un po' a questo percorso, poi si è allargato moltissimo, molto bene. Sulla pagina Facebook direi solo due cose alla fine, ma se sono su una vera polemica, anche perché è stata già, tra altre cose, mi sembra così abbastanza strano che proprio noi non ci rendiamo conto di qual è la potenza di questi mezzi di comunicazione, oggi sorprendendoci che questi mezzi, se non attenzionati con una certa intelligenza, che non vuol dire né controllarli, né mediarli, né fare, poi generano robe di questa roba. Io l'avevo detto, l'avevo scritto, Francesca l'aveva anche segnalato che cura insieme a me la cosa, è arrivata una serie di saitate monosessuate, maschiliste, da questo punto di vista molto forti, all'epoca c'erano presenze di vigore, insomma, che sapevano anche alzare la voce, e purtroppo questa roba qua è andata a cadere, anzi qualcuno mi aveva anche accusato che io volevo chiudere il gruppo di Facebook. Poi adesso scopro, ma queste saranno a venire, perché lì, se voi allungate il post, io lo so benissimo perché questa cosa mi è stata già detta, poi io come moderatore ricevo le cose che le persone scrivono e che voi non ricevete. Se voi allargate il post e lo stampate tutto, ce n'è da scrivere un paio di migliaia di articoli rispetto a tutti i temi che sono stati trattati, dall'Israele alle questioni delle mani, per cui aspettatevi da adesso alle prossime settimane, perché abbiamo dato materiale per alimentare polemiche che noi non controlleremo, perché un po' tutti siamo finiti dentro discussioni di questo tipo. Per cui io, quando avevo detto molto tranquillamente, ragazzi, attenzione, questi strumenti, se non governati con attenzione, diventano una sorta di, come posso dire, elemento non controllabile, che poi minano il nostro lavoro e magari anche la nostra opinione, perché io non conosco, non leggo l'ordine, non conosco il giornalista e non so neanche se dargli quell'importanza dovuta. Però c'è chi gli darà importanza, c'è chi, queste cose sono state già stampate, verranno utilizzate per la campagna elettorale e ci verranno somministrate come l'opinione di tutti noi. Teniamole in considerazione, perché è un fatto che comunque diventa, è vero che non c'è il signor Facebook di Primaria Vero per Como, però le semplificazioni non le facciamo noi, le fanno quelli di destra e le utilizzeranno, le armeggeranno. Adesso io non so qual è la formula per mettere in mano a quella roba lì, secondo me è un moderatore che tra altre cose c'era, che non sono io, è la Francesca, e che ha provato anche a scrivere in certi momenti dei messaggi civili, sensati, cercando di riportare all'ordine. Se qualcuno a quella roba lì dava forza, visto che leggo dei post dove ci sono 580 commenti, a quei post lì non c'è stato neanche un commento, anzi ci sono stati attacchi furibondi, tacciando di che c'era qualcuno che voleva chiudere perché aveva paura di chissà che cosa. Nessuna paura, per cui preparatevi, perché quella roba lì, quando l'hanno già stampata, i giornalisti ce l'hanno già in mano, e verrà adesso utilizzata di volta in volta per attaccarci sui vari poteri. Prepariamoci, perché è una cosa che adesso la utilizza l'ordine, ma la utilizzerà poi il Corriere, la utilizzerà anche la provincia, perché come sapete io per lavoro con questi ho a che fare, e aspettiamocelo perché sarà così. Ma questo adesso non lo so cosa si può fare, perché moderare quel gruppo vuol dire fermare, bloccare almeno i post in entrata, farla diventare forse più una pagina formativa, ma questo naturalmente vorrebbe dire fermare la discussione e generare un meccanismo che andrebbe spiegato alle 350 persone che oggi ci sono iscritte. Discussione, vengono a farla giovedì di persona, se mai. Guarda, io condivido al 1000 per 1000 questa replica. Perché lì ormai, come è facile anche rendersi conto, ci sono 3-4 commentatori che hanno anche tanto tempo da poter dedicare, ma che non è solo la riga di turno, perché no, poi no, tra le altre cose siamo, con questo meccanismo ci siamo anche lasciati il fianco al fatto che si sono iscritti dei profili di persone che non si capiva che persone erano, che evidentemente erano anche dei proviatori, adesso non per dire, ma mi pare che gli attacchi che ha subito Cesare Renzi in quella roba lì, da quel Cesare Renzi, o del fatto che c'è un profilo IDV che non c'ha nessun amico e non si capisce chi è, così, cioè sono robe che caderci così era proprio roba da stupido. O si cancellano o non si accettano. Infatti, il problema è che se io cancello di diritto qualcuno, Renzi, dove sta l'elemento censorio o no? Renzi, il giorno dopo che tu l'hai cancellato, ha mandato a tutti un messaggio in cui gli si faceva vittima di questo. E io l'ho ripreso. Per dire adesso, io non me lo assumo questo compito, e anzi, ho detto in giro, in maniera molto clean, ho detto ragazzi, se questo è il meccanismo, io faccio 3 passi indietro tranquillamente, anche perché una volta che ho visto che quel tipo di attacchi arrivavano in maniera così pretestuosa anche nei confronti di Francesca, che poi tutto sommato è anche la mia compagna, e la cosa ovviamente un po' mi ha infastidito personalmente, per cui sapendo, essendo nella politica comunque da tanti anni, so come funzionano questi meccanismi, ho preferito fare qualche passo indietro e ascoltare, osservare, perché comunque quello comunque lo faccio, perché mi interessa e mi piace. Tolto questo aspetto, ma era semplicemente per spiegare perché quel gruppo così non è governato, perché sennò sembra che siamo, non abbiamo voluto governare quel gruppo. A un certo punto l'abbiamo posto il problema, e quella invece secondo me poteva diventare una risorsa, perché 350 contatti consolidati, se quella pagina diventava la pagina informativa delle attività di questo gruppo, magari di alcune, perché si possono alimentare anche delle discussioni interne come temi, insomma, poteva invece diventare uno strumento interessante, tenuto conto che tu hai, ti do del tu, scusami, ma che tu hai perfettamente ragione, che noi abbiamo comunque un gap comunicativo che dobbiamo pur colmare, e sappiamo che la rete ci aiuta da questo punto, perché noi non andiamo sui giornali, non abbiamo addetti stampa, non possiamo comprare grandi spazi, non andiamo in TV, per cui internet ci può aiutare. Adesso si può rimodellare quella pagina, lo possiamo fare facendola diventare una sorta di vetrina del gruppo, però deve essere una, tutti dobbiamo essere d'accordo, perché sennò diventa qualcosa imposto, e a quel punto lì diventa un po' fastidioso subire attacchi di questo tipo, perché non c'è nessuna volontà di controllare o di governare nulla. Secondo il mezzo, scusa Salvatore, il mezzo che noi abbiamo scelto, Facebook, secondo me non è così, nel senso che io vedo di più, se vogliamo fare una cosa un pochino più controllata e moderata, un sito o un blog. No? È più impegnativo, però. Certamente più impegnativo, però certamente. Cioè, quello era uno spazio, può essere uno non spazio. Non vedo spazi di. Io mi sono tolto ieri dal gruppo di Facebook. Io ho letto ancora oggi delle cose, delle robe, ma io lo so, perché questi già lo so, che mi hanno detto, ma tanto non preoccuparti che lì abbiamo stampato tutto, e quando saremo lì sono delle robe che ho letto su Israele, sulla manifestazione, sulla violenza, su Arafat, cioè su Gheddafi, cioè praticamente tutto l'inscindibile di tutto, secondo me anche un po' furbescamente, forse un po' per allontanare la discussione dai temi veri. Questo è un peccato, però è un problema, ma non è la cosa che più mi interessa di stasera. La cosa che invece mi interessa di stasera è il fatto che io, come sapete, ci ho messo la faccia, per cui seppur ho un ruolo all'interno della città, perché ho la responsabilità di portare avanti l'Accademia Galli di Como, che comunque è un'istituzione di questa città, ho deciso di metterci la faccia e di spendermi, e ho deciso di impegnarmi per la candidata Gisella Introzzi, che tra le altre cose è l'unica candidata che frequenta questo posto e l'ha frequentato dall'inizio, no, nel senso, dico, non che sia. Per me è un valore aggiunto, naturalmente. Cioè, lo credo, secondo me, io questa credo, sera no, mi ma sarei lo dico, aspettata qualche ma lo dico senza avere tra le altre cose, e tra le altre cose, però non è mai intervenuto. No, anche per noi non è intervenuto. Sì, perché io magari ce l'avevo dietro l'ultima. l'ultima volta sentivo anche i commenti e forse... E poi l'hai cancellato. No, no, no, non l'ho cancellato, ma sentendo i commenti dietro delle varie cose ho avuto un reframe un po' così. Io parlo delle e poi mi ha lasciato qualcosa così. Ma ha partecipato giovedì scorso, quella è la sua cosa personale, no, ma sempre un po' di parte. Ma no, io sono di parte, l'ho appena detto. Però fammi finire, tu hai parlato, nessuno ti ha interrotto. Io sono abituato a non interrompere e a lasciare parlare, se ti interessa. Poi io sono di parte perché ho detto, a differenza degli altri, vedo che tanti hanno preso le posizioni magari su. Ma io ho detto già però volete fare la polemica e non accettate la battuta, fatemi finire di parlare. Io vi ho detto subito per chi mi sono schierato e ho detto che gli altri qui non ci sono, qualcuno ha partecipato ma non l'ho visto attivamente. Io Gisella l'ho sentita intervenire attivamente in più incontri, spendersi, dire delle cose. Io gli altri non li ho sentiti, ho visto Lucini che è rimasto, il Spallino, che credo che sia uno dei portacque di Lucino, che rimaneva sulla porta. Gli Antonio naturalmente è venuto, e così via. Per cui è un fatto, insomma, non è che, per l'amor di Dio, cerchiamo di essere anche capaci di ascoltare delle cose che magari non abbiamo voglia di ascoltare, che non ci interessano. Dopodiché io mi spendo per Gisella Introzzi, mi sono spesa per la candidata. Noi stiamo facendo un lavoro di costruzione di alcuni principi di programma che abbiamo deciso di declinare in alcuni incontri di quartiere, cioè andando in tutti i due quartieri procedendo a un percorso di ascolto. Per cui credo questo che sia un fatto importante, e non sovrapporsi sulla questione dei temi, perché pensavamo che la questione dei temi potesse essere un lavoro che invece Primaria Verde per Como poteva fare nelle formule che era stato individuato. Io personalmente non condivido quello che sta facendo il comitato organizzatore, anzi lo trovo, perché mi sembra un lavoro fatto male, perché quando si concordano degli incontri tra i candidati intanto bisogna dire chi li coordina, come vengono gestiti, chi fa le domande, quanto tempo hanno i candidati e così via. Non sono cose irrilevanti, sono cose di sostanza in un processo di questo tipo, e vedo che su questo, visto che non è difficile comprenderlo, c'è insomma l'agreement di qualcuno che su questo ha la volontà di dare. Naturalmente, se quegli incontri sono degli incontri dove si fa la pantomima tecnicistica di quello che non avviene in consiglio comunale che dovrebbe avvenire, beh, qualcuno sarà avvantaggiato, visto che gli altri tre consiglieri, chi dal 94, chi da prima, sono lì a parcheggiarsi in consiglio comunale. Tra le altre cose, per esempio sulla Ticosa, in uno degli approfondimenti che stiamo facendo, abbiamo scoperto che nessuno dei consiglieri comunali di opposizione ha fatto una cosa minima che bisognava fare, cioè una denuncia alla Corte dei Conti. Adesso però stai facendo un po' campagna elettorale. Adesso un pochino stai facendo campagna elettorale. Diamoci un ordine, perché questo non è ambito di campagna elettorale. Okay. Ti avviso, Salvatore, perché sennò... Ognuno potrebbe dire. Sta denunciando. No, ma non io, c'è. Io penso che razionalizzando le cose, io riprendo quello che ha proposto Fissi Scarpina, cioè che ha posto un problema di questo genere, se non ho capito male. Si era creato questo movimento, io ho perso alcune delle puntate anche l'ultima, ne ho seguite altre, sono intervenuto, ho partecipato, e si è ottenuto il risultato politico. Io l'ho detto anche quando nella penultima riunione ho visto cominciare delle lamentazioni, ad un certo punto il dato importante è che grazie a questo movimento qui si sono fatte le primarie vere, che non erano un fatto politico scontato. Prima questione che deve essere considerata e valutata positivamente da tutti noi. Da chi ha promosso in prima battuta Lilia e gli altri che si sono mossi per primi, poi via via tutti quelli che si sono aggregati. E questo è il primo risultato. Scarpina pone poi un altro problema, cioè quello di vedere, ottenuto questo risultato politico, che cosa deve fare questo movimento in questa città. E io credo che la funzione politica, al di là di quello che sarà il risultato delle primarie, dove ci sono quattro candidati che sono persone tutte quante rispettabili, e importanti per varie sfaccettature delle loro identità politiche e politico-culturali, credo che la questione di fondo sia quella di vedere politicamente questo movimento qui che cosa deve fare quando chiunque vinca poi le primarie si dovrà fare quella che è stata definita poi la battaglia decisiva. Io credo che il ruolo politico importante che può avere questo movimento anche in questa città, io lo vedo ricollegato a quello che è stato fatto, non sempre per citare l'esempio autorevole di Milano, io l'ho già detto in un'altra riunione, che è quello sostanzialmente di tenere conto che in questo momento c'è una forte propensione, io lo dico nei contatti interpersonali e lo verifico nei rapporti che ho con le persone, sul movimento di Grillo. Cioè esiste in questo momento qui un forte risentimento anti-istituzioni che va al di là del ceto politico, perché Grillo polemizza con la Confindustria e con il sindacato, polemizza con una parte della magistratura, arriva a definire Pisapia, Pisapippa o cose di questo genere, che si deve far riflettere. Allora Pisapia a Milano non è che non ha capito che c'era questo pericolo, che ha portato, ripeto, Grillo a sfiorare il 10% in una città come Torino e adesso nelle elezioni del Molise nei centri urbani piccoli, puntiformi rispetto a Milano, del Molise ha preso più del 10%. Noi dobbiamo considerare che Pisapia intelligentemente ha fatto delle liste di sbarramento per intercettare quello che è il dissenso politico, ma in termini costruttivi, per vincere le elezioni, non per perdere disperdendo sostanzialmente i voti, come già avvenuto proprio anche nel Molise, dove abbiamo visto che il risultato di tutto ciò è che il centrosinistra avrebbe potuto vincere, invece non ha vinto. Allora, io credo che una funzione politica lo deve assolvere, perché, lo dicevo anche l'altra sera in un'altra occasione di incontro ad Albate, oltre a Grillo c'è anche il tentativo, io credo che verrà fatto dal centrodestra, di fare liste di sbarramento più o meno civiche per impedire, diciamo, il mutamento di voto a favore della coalizione del centrosinistra. Una presenza vivace come è stata questa, se ben mantenuta e collegandosi con chiunque sia il candidato, io poi anch'io ho delle mie preferenze, poi le posso anche esternare, ma non mi interessa in questo momento diffondermi su questo aspetto. Credo che si debba valutare questa diciamo così prospettiva, quindi tutti gli interventi che sono stati fatti, che ho sentito prima, di affinare anche dal punto di vista programmatico alcuni aspetti che riguardano l'ambiente, riguardano altre questioni della città, io credo che debbano essere fatti valere. Certo. Torno a dire, anche notizie di cronaca rispetto ad altri interventi che ho fatto sulla presenza della delinquenza organizzata nella nostra città, non più solo tinteggiata, diciamo, con i colori della punta dello stivale, ma andando adesso sembra anche leggermente più a nord, no? Notizie mi pare di questi giorni, ecco, che segnalano che una, secondo me, dei punti che devono qualificare questo movimento è anche questo, cioè è un problema che riguarda noi e riguarda le future generazioni, perché l'approfondirsi della crisi economica sta comportando che chi dispone di denaro entra non solo nell'edilizia, ma nei settori terziari, nel settore alberghiero, e ci sono dei punti, cioè, su cui possiamo lavorare, tenendo presente che non possiamo ridurci anche in questa prospettiva qui di aiuto al candidato del centro-sinistra che potremmo dare, dal non tenere conto delle problematiche nazionali. Io su questo insisto, se oltretutto le elezioni amministrative coincideranno, probabilmente, si dice, non lo so, con le elezioni politiche, ecco, dobbiamo attrezzarci a fare in modo che su queste tematiche qui, il lavoro ai giovani, la lotta alla delinquenza organizzata, e la microcriminalità, quelle cose che sono già state dette, anche altre, cioè questo aspetto qui, ecco, noi dobbiamo evidenziarlo. Non basta solo fare, e con questo io è una critica che faccio magari anche in altra sede, non basta fare la lista civica per amministrare Como. Cioè questo è un discorso, io magari, mio ex compagno di classe, dicevo, e sono anni che io gli dico che e in contesti politici, con le problematiche che ci sono, di crisi economica, finanziaria, con tutte queste cose qui, occorre avere una visuale sul dato nazionale. Io vorrei aggiungere una cosa su... Non so se avete osservato, ma i grillini stanno battendo tutti i quartieri della città. l'ultima che questa settimana hanno fatto Via Grandi e poi hanno fatto Via Collegio dei Dottori. Io ho letto la loro piattaforma, non sottovalutiamola, perché nella piattaforma dei Grillini ci sono tutte le tematiche dei Verdi tedeschi e di Latouche. Loro propongono anch'essi la decrescita non felice, ma fanno un discorso di decrescita, quindi è un discorso... È una tematica che appoggiamo anche noi. Appunto, è un discorso fascinoso. Ora, così stando le cose, no, io direi che, siccome il 27 è una data di partenza e non d'arrivo, no? Se noi approfittassimo del 27, è uno dei primi momenti in cui voglio fare lo scrutatore, perché voglio vedere in convalle chi sono i cittadini che vengono a votare, perché siccome abrogheranno i consigli di circoscrizione, se noi come movimento cominciassimo a costruirli come facciamo un tempo, Sergio se lo ricordo perché noi siamo vecchi, quando noi eravamo segretari di due partiti allora, e avevamo a che fare con i consigli di circoscrizione che funzionavano benissimo, no? E arrivavano persino a contestare il consiglio comunale, parlo degli anni 69-70, c'eri anche tu. Erano i consigli di quartiere. Consigli di quartiere, no? Che erano veramente strumenti di agitazione che hanno avuto un ruolo. Sono morti quando sono stati istituzionalizzati, perché i partiti hanno messo le terze, quarte, quinte file, cioè hanno messo degli zombie che invece che suscitare i problemi li annacquavano. Ora, siccome avremo una serie di... Se noi cominciassimo a costituire dei nuclei di agitazione, di indignati, dei cittadini che si battono sui loro problemi, allora ha senso la piattaforma di Liglia del bilancio partecipato. Ma noi dobbiamo insegnare le cuoche a governare lo Stato, quindi dobbiamo abituare i cittadini ad essere partecipi. E prima di arrivare al bilancio partecipato, magari vorrebbero parlarci, no, del transennamento dei buchi che fanno in via Vittorio Emanuele con le delegazioni di 400, di 100 paesi che girano per la città, o della sporcizia della città, o di una serie di problemi di degrado, no, che vi sono. E io sono convinto che la partecipazione che lei nota, no, girando, che nota, no, se la organizziamo in una specie di momenti di cahier de doléances, e diamo e ricostruiamo una struttura, avendo addirittura le sedi che rimarranno deserte dei consigli di istituzione, potremmo usarli come consigli di quartiere che riguardino i nostri problemi. Non in convalle ne basterebbe uno, perché i problemi di Como Centro e della convalle sono assimilabili, vedete i trasporti e altre cose. Quindi non perderei l'occasione di farci fase costituente in prospettiva del bilancio partecipato, di comitati di quartiere spontanei che si auto-organizzino. E questa è democrazia, il demos e il crato si avvicinano. Penso che stiamo dicendo molte cose simili, eh? No, una solo cosa, un paio sono domande. Uno, sono già stati fatti dei volantini per dire che il 27 ci sono le primarie? Sì, sono questi. Sono la seconda cosa. Sono stati distribuiti nelle scuole? Perché li stanno distribuendo adesso. 16 anni, quindi è già organizzato. Cioè, delle domande queste. No, è uno dei temi che mi sta particolarmente, cioè, a cuore. No, quella delle extra comunitarie e dei giovani, di trovare delle formule, delle vie, no, di andare. Dove vanno proprio nelle scuole, nelle scuole superiori, per dire. Cioè, è importante volantinare lì, perché magari neanche lo sanno, cioè, neanche lo sanno. I volantini funzionano, abbiamo visto il referendum, funzionano. Allora, la terza domanda è, se invece di trovarsi in un bar il giovedì non si facessero itineranti nei delle circoscrizioni, non sarebbe più produttivo? Perché per dare non ho capito. Se invece di trovarsi nei bar si facessero le riunioni affittando le circoscrizioni, non sarebbe un modo per essere più vicini alle strutture che ci sono e ridargli un pochino di vita? Però, no, ti dico perché ho pensato un posto fisico, è un po' come se fossimo, io vorrei come se fossimo gli indignati di una piazza spagnola. Allora, certo, la dimensione non siamo in grado di fare gli indignati in piazza a tenere da adesso all'infinito, però una sera alla settimana, un luogo, sempre lo stesso, è facile proprio come comunicazione, ci si trova il giovedì lì, punto. Dopodiché uno... si ricorda, è uno, questo giovedì non ci vengo, ci verrò l'altro, ci verrò codo, insomma uno, perché altrimenti proprio come comunicazione diventa ingestibile, diventa un'altra cosa. Invece la mia idea è la piazza, Ecco, proprio la gorabbia, insomma, chiamiamolo come vogliamo, nel modo più semplice possibile. Scusa? Come sono freddo, ci troviamo in un bar. Esatto, non abbiate, poi in un bar vediamo. Allora, visto che stiamo arrivando alla... Chi vuole intervenire ancora? Dopo volevo dire una cosa io a livello di risposta. Io vorrei chiedere se mi delucidate meglio una cosa che forse ho capito male. Allora, esiste il comitato... C'è un comitato organizzativo. ...che fa delle cose... chiamiamolo pratiche, più sì. meno politiche, più sì. pratiche, sì, sì, è così? Sì. Poi ci sono i candidati che sì. sono poco informati di quando sì. fa il comitato. E però nel comitato ci sono rappresentanti dei tutti, anche dei candidati. Anche dei candidati. Anche di noi. Sì. E anche adesso anche dei candidati. Beh, io avevo capito così. Sì. Sì. Dopo la nomina. La stasera è... Tu non c'hai prospetto di quello che è passato. È la prima il candidato sera. È una delle Aspetta. Commissioni che è stata concordata. Quindi c'è un comitato e ci no, questo capito. Però poi ci sono i candidati e il comitato fa anche queste quattro iniziative. Sì. Boh. Tre, invece, e una tre più una. Invece i candidati ne fanno le loro in modo autonomo, indipendente, certo. a seconda di cosa che certo. possono certo. fare loro. Gisella? E ognuno loro. Esatto. Giusto? Esatto. Così, ecco. E invece primarie vere. È autonoma e va avanti per conto suo. Farebbe altre cose. L'idea, magari senza. Io ho capisco il tuo. Scusami. No, primarie vere l'aveva detto e l'abbiamo risposto. Primarie vere va avanti con un percorso. No, il problema è di interfacciarci con il resto. Perché poi ognuno di noi all'interno, già, qualcuno di noi ha già scelto dei candidati. Sì, ecco. Quindi si è anche in una posizione di essere un continuatore che però. No, non è precisamente lo stesso contenitore né della, chiamiamo dello staff del candidato né dello staff del comitato. Sì. Ecco. Un'altra cosa, ecco, un'altra cosa. E qual è il problema? No, volevo capire come si finanzia. Diciamo. Dicembre in avanti, poi ci sarà un gruppo che lavora per educare gli altri. Esatto. Cioè, se ne sono più quattro. Dal 28 in poi lavoriamo per uno. Il 28 novembre è un altro. Intanto ci sarà. Grazie che ci siamo. Intanto ci sentiamo. Scusate. Allora, scusate. Gisella, volevi dare una risposta? La risposta che stavo dando a lui. Per quanto riguarda, io so, la prima riunione del comitato organizzatore integrato con i rappresentanti di ogni candidato è questa sera, si sta tenendo adesso. Capito, per cui non so capito. Cosa sì. No, io pensavo già dall'inizio. Okay. No, no, perché non avevo capito. Sì, perché se uno non riuscì a prendere infatti, quando mi hai detto... Quando prima dicevi che non avevi capito come era venuta la discussione, non riuscivo a capire perché io ero rimasto fermo al fatto che nel comitato organizzatore c'era dentro già. Allora, adesso, visto che siamo verso la fine della riunione, perché come al solito ho detto io, a certo orario bisogna concludere, se c'è qualcuno che vuole intervenire... Altrimenti, due cose. Prima la cosa più importante, dopo volevo rispondere a un concetto. Allora, se siamo d'accordo nel fare il manifesto, e poi il volantino, no? Nei contenuti, no? Io direi. Io... Sì, adesso abbiamo un fine settimana per arricchirlo e metterlo a posto. Però settimana però, prossima ci deve essere. Soprattutto il manifesto l'ha fatto partire quanto certo. prima. Certo. Poi una volta, poi anche perché oggi manca un mese. Va bene. E questa è una cosa, direi che... Ecco, però sul sì. manifesto, poi dopo graficamente lo vediamo. Io proponevo questa cosa, non lamentarti, partecipa a una democrazia diretta. Prima arrivare per come e poi il luogo. Basta, cioè proprio... E poi con un sito. Il sito semplicemente perché uno possa andarsi a leggere. Un sito proprio con una pagina sola che è il testo del volantino. Poi lo arricchiremo, sostituiremo quell'altra cosa. Però voglio dire, proprio una cosa essenziale. Sarebbe essenziale mettere... i luoghi del voto. Esatto. Perché sì, sennò sì, perché la gente ce li chiede. Sì. No, questa è un'altra cosa. Però. No, non c'entra niente. È importante. Non c'entra niente con i luoghi del voto. No, scusate, facciamo confusione. Cioè, secondo me non c'entra. Il partecipi, quindi è un qualcosa che va al di là delle primarie, del candidato. Sì, okay. È qualcosa perché altrimenti sembra, cioè io la cosa che non voglio, ma non voglio che sembri, ma non voglio che non sia nella sostanza, poi è un punto di vista, ma non è che semplicemente come dire, di portare acqua al candidato del centro-sinistra. No, perché non voglio che sembri così. Deve essere e deve sembrare, ma perché lo è un'altra cosa. Allora in quel senso io lo farei proprio essenziale. È solo sui temi. Poi quell'altro ha un altro percorso. Posso dire che non sono d'accordo? Ma è bellissimo, sono contento. Ho l'impressione che nome Giuseppe si chiama. Io invece sono dell'idea che bisogna mettere la data delle primarie. Sì. Lui vuole la chiesa. Secondo me, anche ma sulla base dell'esperienza, vuoi della fase di raccolta delle firme, vuoi di gazebo in piazza. Allora, io le firme che ho raccolto personalmente, cioè impiegato, e non erano persone distratte o che altro, perlomeno mezz'ora a spiegare il meccanismo delle primarie, cosa succede. Quindi vuol proprio dire che in un pubblico non del tutto ignorante, questa cosa qui non è chiara. Per cui io cercherei di spiegarla banalmente di più. Seconda cosa, è importante la novità che votano gli stranieri e che votano i sedicenni. Queste due cose vanno messe assolutamente in risalto e questo è un compito proprio di un messaggio trasversale che non riguarda i singoli candidati. Altra cosa, i luoghi e come si vota. Io stamattina ho suggerito a Danilo proprio di entrare nel merito di questa cosa, perché sempre il gazebo dice ok, io vado a votare, ma dove vado? Cosa faccio? Dove sono? E anche qui il povero candidato chi lo sa, perché devono ancora decidere tutte queste cose. I sedicenni che non hanno un certificato elettorale, come, con che cosa votano e dove vanno a votare? Allora il messaggio che io sto pensando di mettere sui miei singoli volantini, se ce la faremo a farli, ma credo che valga di più la pena che sia su quello generale, sembra che abbiano deciso così, che guardate che votate dove votano. Ma però in realtà quella cosa lì ho sbagliato io, perché quello non è il generale. Questo non è il generale. È questo il generale. È quello. Ok, allora il messaggio sul fatto di andare, secondo me il messaggio di questo, di andare a votare alle primarie, data, meccanismo, come sono, chi vota, dove si va a votare, eccetera, per me queste sono importanti. Sì, allora, questo tipo di cosa qui fondamentalmente la deve fare il comitato organizzatore con il comitato promotore, che stasera si riunisce infatti d'altra parte. E lì bisogna fare fortemente queste richieste, perché è vero che ci sono ancora delle carenze, malgrado qualcosa si stia facendo per la comunicazione, e c'è qui il primo pieghevole che questa cosa dice. Poi ci sono in giro dei manifesti, questo indipendentemente che se ne pensi bene o male di come è venuto, porta però più o meno il tipo di comunicazione di cui chiedevi. Va integrato però. Con le informazioni che diceva. Ma se non sbaglio, glieli mettono dentro. Siccome non sono ancora decisi, pensano di infilarli dentro semplicemente così, come un foglio in più nel pieghevole. Questo è come ci si sta organizzando a livello centrale, diciamo. Ma questa proposta che è qua sul tavolo di chi si è sostanzialmente la proposta di rendere permanente questa assemblea qui, trovandogli un luogo fisso in questo senso qui, perché aiuta la permanenza, non ha nulla a che vedere con l'organizzazione delle primarie in quanto tale, porta al luogo di primarie vere, perché l'assemblea nasce come primarie vere, poi finite le primarie, secondo me potrebbe anche sparire il riferimento alle primarie stesse, primavera. Va bene, lo dovete dire primavera, però diventa sostanzialmente il luogo di una democrazia partecipata che noi stiamo tentando di mettere in piedi e che non ha nessuna responsabilità, secondo me, rispetto all'organizzazione della primaria. E non ha nessuna necessità. Confuso io chiedendo le date. Okay. Sì, su questa cosa qui mi sembra di aver sentito vari contributi che sono molto allineati e mi sembra che la si senta come una necessità a tutti di continuare su questo percorso qui, di allargarlo, di comunicarlo esternamente, di trovare delle forme partecipate, anche di studiare la comunicazione. Quindi in breve tempo, magari riuscendo a partire già giovedì prossimo con questa cosa qui, sarebbe bello che ci si concordasse. Invece io da questa parte qui sto seduto questa sera solo per una ragione, no? Perché come comitato organizzatore ho bisogno di chiudere questa questione dei dibattiti. E mi sembra che in effetti il problema c'è, la comunicazione sta girando malissimo, c'è una gran confusione organizzativa. Bisognerebbe che deste anche voi tutti quanti una mano, guardo principalmente il gruppo. Scusate, potete stare in silenzio là dietro, scusatemi. No, guardo principalmente voi perché siete quelli che principalmente avrebbero in mano l'organizzazione della prima serata. Questa organizzazione qua ve la siete chiesta sostanzialmente, nel senso che destrutturando quella struttura un po' rigida che c'era all'inizio, chiedendo di avere di portare i contributi, chiedendo di far passare direttamente al dibattito, sostanzialmente avete chiesto di organizzare in questa maniera qui, in questa prima serata. Adesso bisogna organizzarla. Cioè io vi pregherei di non incapponirvi sulla questione di quanti sono i contributi che portate, perché questa cosa qui, mio personalissimo parere, ma so che è sentito così anche nel comitato organizzatore, e a me personalmente sembra totalmente logico, è fuori luogo come presenza, nel senso che quelle sono serate in cui già i candidati hanno degli spazi relativamente limitati, si vuole dare il più spazio possibile al dibattito, non è possibile per pura logica contemporaneamente di dare tanto spazio anche a voi. Scusa, se c'è un quarto d'ora e se in tre che si parla in tutto il quarto d'ora, uno solo che parla un quarto d'ora uguale, ma non è questo il punto, non ci interessa. No, è appunto, non mi sembra, non vorrei ma che il tuo argomento è completamente privo di sostanza. Non è privo di sostanza. Perché il tempo è sempre un quarto d'ora, non cambia nulla. Però, ma non ci interessa, no. Non è questo. Abbiamo già dato il nome. Non ce ne frega niente, abbiamo già deciso cosa non fare. Non capisco neanche perché sta solo per creare questa tensione. Ma non è l'atteggiamento. Il problema invece, scusate, il problema è un altro, no? Che spesso, come ha detto lui, che dopo non ci si parla, ma soprattutto perché è proprio un minuto, no? Noi siamo partiti, guardate, veramente, da una situazione che, guarda, con lui l'avrò parlato 100 volte negli ultimi 10 anni, o 5, no? Una situazione dove veramente, no? Prima c'era, non c'era nulla, no, di relazioni. Perché c'erano tante persone, no, che si... ma non c'erano relazioni, no, capito? Adesso anche il mio amico lì, come si chiama, il Donato, che è andato via, che io lo capisco anche, però non c'erano relazioni, ragazzi, invece adesso ci sono relazioni positive, certamente. Voi dovete venire agli incontri, no? Uno vuole l'incontro, 2 giornalisti, 4 persone, gli fanno le domande, eccetera, così. Io dico, ma cosa vai? Vai a litigare su queste cose qua? No, cominci a parlare da lontano, ma non perché vogliamo fare i moderati o il moderatismo o roba del genere, ma perché altrimenti cosa fai? Ti vai a scontrare subito. Io quello, noi siamo. Mi dispiace tantissimo di stasera, no? Che secondo me non so come mai, probabilmente c'erano dei problemi così, ecco, esatto, così che. Ma noi siamo riusciti a creare delle relazioni adesso, che sicuramente anch'io sono d'accordo che la proposta, l'idea, poi l'idea tematica, uno dice così, ma un altro dice che non è mica vero, è meglio in 4 persone, eccetera, eccetera, tutto. A un certo punto, ragazzi, per trovare la sintesi, è questa che ci fa diventare. Che siamo in grado di governare questo titolo, quello di fare sintesi, ma senza poi fare polemiche o roba del genere. E poi miglioreremo, no? Io dico che la penso così. No, un'unica cosa, perché ogni tanto c'è la confusione fra quel piano qua e sì, il piano là. Quello no, sì, questo è un altro discorso, quello è un altro discorso. Guardate allora, che io anche sui fatti dei piani, sostengo una persona, ma guarda che per me io non ho problemi, dico, perché io sinceramente non voglio strumentalizzare né uno né l'altro. Io siccome credo invece fortemente in un percorso di questo genere, ma credo anche nel sostenere una persona, perché guardate che quando lei ha detto, guardate che però dovete anche decidere, vogliamo decidere anche chi scegliere, ma non perché dobbiamo sceglierlo noi, di scegliere il candidato migliore che sappia interpretare anche un'innovazione vera, no? Diciamo così. Dopo, se il candidato è Iantorno, Magatti, per dire, per te, per tutti, è Lucini o la Gianni Trotti, ragazzi, va benissimo, io non lo discuto neanche, io farò la mia di cosa, no? Così, ma così. No, ma dire, ma invece adesso abbiamo, e non dobbiamo buttarla via queste relazioni che abbiamo costruito, né? Non dobbiamo buttarle via, guarda, io veramente, io sto zitto tante volte quando dicono delle cose così, però dico, non dobbiamo buttarle via, dobbiamo andare avanti. E dobbiamo aggiungere di più, anche questo fatto qua del dibattito, io sono convinto che, no, ma lo so, probabilmente poi dopo quando lo organizziamo, no, e lo faremo definitivamente, perché alcuni non riescono a capire ciò che abbiamo detto, ma non gli voglio fare una colpa, altrimenti come già detto, io non parlo più con l'altro. Ma se non si è convinti di quello che si fa, non si combina certo, mai. Certo, certo. Posso dire una base precisa? Però è una cosa sulle confusioni. Cioè noi, all'interno di questo blocco, che sono praticamente, siamo il 25-20% di quella struttura lì, cioè ci sono i quattro partiti, esatto, più ci siamo noi, quindi noi al massimo possiamo dare un mandato ai nostri rappresentanti dentro lì di muoverci in un certo modo, ma non è che noi siamo noi che decidiamo, certo, che cosa succede lì. Allora, molto semplicemente, però non possiamo neanche passare le serate, certo. Voglio dire, a parlare di questa cosa, ma non per niente, no, scusami, perché altrimenti rischiamo poi di combinare poco. Cioè, discutiamo molto di un piano in cui siamo una componente, mentre noi, di fatto, secondo me abbiamo un altro compito. Che infatti, è quello che è quello di portare avanti una. Abbiamo delegato la povera Marta. Perché altrimenti ci incasiniamo anche, rischiamo. Va bene. Il problema è un altro, il momento in cui hai delle mentalità rigide e inquadrate, che le novità fanno fatica a prendere, l'abbiamo capito. Però poi il problema sempre trovi, cioè che poi contatto, io gli pongo il problema delle primarie, mi pongo il problema di dopo, con queste mentalità sulla gente, sulla costante. Quindi l'intervento di adesso, che dopo a un certo punto chiudi, avete ragione, si chiude, si fa una mediazione, non ci puoi discutere la novità, però serve per far capire che non si può andare avanti così, se no poi centro-sinistra, io voglio che vinca. Certo. Ma la nostra capacità di far funzionare le cose in un altro modo, cioè voglio dire, inutile che vogliamo la cosa, inizia a destabilizzare Luca, volevi dire una cosa e l'ultimo intervento. Io però vi faccio una proposta, dato che c'è stata una proposta che è stata presentata da Chissi, e la proposta è quella di costituire un gruppo che continua a ragionare su iniziative, continua a sollecitare il confronto e la partecipazione. Che si decida qui stasera se costituiamo realmente questo gruppo e andiamo avanti su questa cosa. Io poi capisco che all'interno di questo gruppo ci sono esigenze diverse, mi fa piacere quando ci sono i candidati, mi ha fatto molto piacere che è intervenuta Gisella, come mi ha fatto piacere che ad esempio la settimana scorsa è intervenuto Magatti o gli intorno le prime cose, però questo è un ambito neutro per noi. È un ambito neutro in cui l'obiettivo non è appoggiare questo o quel candidato, anche se ognuno di noi ha le sue convinzioni, ma è creare un luogo di partecipazione e di confronto. Ok? Che sia chiaro questo, la contestazione nei confronti di pubblicità a singoli candidati è data da questo. Io non voglio rientrare nel merito. Questo è un luogo di confronto, sperando che i candidati arrivino, perché è vero, noi abbiamo visto i primi tempi intorno, poi abbiamo iniziato a vedere un po' Bruno, che non ha partecipato tantissimo come interventi, però è intervenuto, poi abbiamo visto Gisella, spero prima o poi di vederli un po' tutti e quattro presenti, ma capisco anche l'esigenza loro adesso di fare campagna sulla propria candidatura, cioè noi ci sovrapponiamo, poniamo un problema in più, Gisella, il problema è questo, ci sono persone all'interno di Primarie Vere per Como che si sono chieste alla fine, non avendo magari un riferimento in un candidato, e fra questi ci sono anch'io, ci siamo chiesti allora che cosa facciamo, perché sprecare tutto quello che è stato fatto fino adesso, non lo sprechiamo, cerchiamo di dare una continuità che va oltre le primarie e andrà verso il candidato e anche oltre, secondo me, se sappiamo gestirla bene. E credo che ad esempio Danilo, che invece ha fatto una scelta rispetto alla candidatura, condivida benissimo questo percorso, perché è stato il primo a porlo, il fatto di dare continuità a un percorso che è andato bene. Ok, io posso fare? Sì, no, no, ma prendiamo tutto. No, qui non si va via senza lasciare i soldi. Sono e non si qua. Non c'è da usare. No. Che poi comunque si dire sì, credo sempre ai candidati, perché tre candidati non andranno a proporsi alla città, però quei tre candidati potranno attraverso l'esperienza nostra continuare anche dopo. Vieni qua, vieni. Io non voglio obbligare nessuno a fare scrutatori, però qui dobbiamo tirare fuori. Voglio dire solo una cosa. Dilla. Pubblicizziamo un'iniziativa. Ancora. Un attimo. Volevo, signori, scusate. Giuseppe. Patrizia, un attimo, vorrei dire una cosa a lei, un'ultimissima, dai, veloce. Sì, sono velocissima. Volevo, scusate, invitarvi domani sera, ma non a costo pieno, soltanto a 5 euro, vedere questo spettacolo che parla delle donne del Novecento. Verrà fatto a Villa Olmo, un mio testo letto da Alessandro Quasimodo. Soltanto per i presenti, e chi, i ragazzi sotto i 30 anni non pagano nulla, questa è la mia, come posso dire, la mia promozione, il mio invito. Chi vuol